Cioè non è più grande, più piccola, è grande così. Ho capito. No! Non è me che devi cominciare. Scusa, visto che ce l'hai girato, puoi far vedere la foto. Benvenuti! Oh. Ehi, scherzone. Siamo in differita. Siamo, eccoci. Sì, la cosa che fai è fatti la diretta TV di girarmi prima. Ecco la mia prima immagine. È stata, è allora, benvenuti a quello che è il nono episodio della maledizione. Certo, sono alla quinta sessione consecutiva. Il mondo sta per finire, non lo sappiamo. Prendo. Esatto. Ma non episodio. Devi fare così. Nono livello? Allora, nono livello? Già? Vabbè, ci sta, giusto. Qua ci sono pochissima gente per essere a nono livello. Allora, al 10 ci sarà al 10. E mi sono anche impegnato a uccidere la gente a casa. Quindi nono episodio, quarto livello? Ah, livello quarto sì, ci siamo già. Appunto, dico imbarazzante, non trovi? Che al decimo sì, dovresti essere ancora al terzo, sono d'accordo. Andiamo a cosa? Che altro cerchiamo dei gabbiani. Anche perché il nemico è il gabbiani, il nemico standard è tipo di ventesimo livello, quindi... Sì, è vero. Sì. Apprezzate la sfida più... No, Beh, finora siamo sempre riusciti comunque a scappare. Siamo sempre riusciti a scappare. È una specie è un merito. Sì. Cosa devo tirare o prendere la media? È stato riconosciuto, come vuoi. Comunque, se puoi decidere di prendere direttamente la media o tirare, ma tanto se fai meno della media... Se no fai come me, tiri, fai uno, prendi la media, io vado così. Beh, tira almeno. Ah no, pensavo uno. 7, è importante. Sì, ho 12.000 punti feriti in meno. Beh, così hai tipo il doppio dei punti feriti che avevi prima, no? Scusa. Un terzo. Ho un terzo. Shelly. Allora, comunque questo è il nono episodio ovviamente della maledizione di Kat, quindi dove noi giochiamo, come sempre, alla versione 5 di Dungeons. Yes. 5.0 dico di solito. E alla maledizione di Contestra. E a proposito di questo, salutiamo Francesco Artigliacolo, che però tra poco ci raggiungerà. Salutiamo invece Luca Lazzarini, che non ci raggiungerà. Ma perché lavora? Perché lavora. Allora, ieri non so perché inizialmente doveva vedersi con qualcuno, poi ha detto no, ma c'è il compleanno di questo, no, poi c'è l'altra cosa. Dico vabbè, non importa che ci invece, se vuoi venire, non vieni. Però lavoro lo stesso. Sarà piccolo comunque. se è questa la domanda, la location rimane questa. Sarà piccolo. Poi lavoro, non lavoro. Le due cose sono ormai ci sono commistioni. Raga, prendo sonno. Posso partire solo una cosa. Inspiration. Vai, se vuoi c'è il divano. Mi sa che mi deve dare l'inspiration. Hai visto che ho l'inspiration? Sì, ma abbiamo tutti l'inspiration. Lui non lo sa. Vado a fare tutto. Per il vostro. Non mi ricordo. Per il piano. Per il piano. Cioè, che è stato. Vado a Sceo. Per il piano che abbiamo fatto la volta scorsa. Per il piano. Do la mia inspiration a Sceo. Spero di non dovermene pentire. Cioè, il piano. Cioè, non era tipo il fatto di dover parlare col tu non ce l'hai l'inspiration? Perché te la segni? No, abbiamo preso l'inspiration. È stata tratta. Come abbiamo agito nel cercare vampiri dentro nel negozio cioè abbiamo messo 4 ore per fare un per piano per non trovare nulla per ucciderli e su quello però niente. Siamo stati puniti con poi ci abbiamo messo 30 secondi per dire semplicemente tu vai di qua e tu vai di là. Abbiamo preso ci sta, bravo, cazzo, mi piace quando... premiare esatto la semplicità la sigla adesso la facciamo partire. Comunque, insieme a me, Andrea Giacomo e Chitano Bologna, abbiamo Stefano Gamberoni, questa è la... quinta consecutiva! Edoardo Saladini che torna al suo posto, Giulio Posi e Enrico Cattabriga, il nostro master e dominatore. Che è la nona consecutiva, lui sicuro. Sì. Lui è la nona consecutiva, Brutto. Oh, anch'io, eh. Anch'io. Vabbè, uno ci mette la location e quindi è abbastanza... Ma fate 200 di questo? C'è. Un po', sì. 3-4. Mamma mia, e quasi scemo. Secondo me quello che è stato di più è l'Asa alla fine. E Arce? Sì. No, l'Asa. Guarda che Arce è abbastanza presente, paradossalmente. E arriva dopo, però c'è. Sì. Va bene. Comunque, a parte questo, oltre al fatto di ricordarvi di seguirci sui nostri canali social, di Dragons and Dragons e RipGDR. Maestro, musica! Musica! Beh, c'ero io a saltare. Non so se sarà sconnesso sicuro. Tra una sì. Manda qualche secondo avanti. La musica è un volume troppo alto. Qualcuno deve fare riassunto? Sì. Però se non vi va lo faccio io. Un'altra volta l'ho fatto io. Dai, lo faccio io. E l'ho fatto tipo 5 volte. No, scusa, ma non ce lo farà Sceo che l'ha fatto la volta prima. Ah, ormai. Ma allora, il riassunto in realtà è molto breve. Noi avevamo fatto... Tu c'eri quando abbiamo fatto il piano che ti eri ritorto con sì, il non ho capito, mi hanno spiegato che non hai ucciso Giulio dopo, non ho capito perché. Dopo non l'ho ucciso un po' per un paladino della vendetta, mica della protezione. No, un po' per distrazione. Non può vendicare. Ho sacrificato i pochi per il bene di molti, cioè... Paladino della vendetta dice il male minore si può sopportare se questo. No, allora, farci. Sicuramente il mio. No, non è vero che ha sacrificato un po' per il bene di molti. Hanno continuato a buttarsi nelle fiamme dell'inferno in mezzo ai vampiri no, dopo. Però... vedi. Il Gatron ha buttato te nelle fiamme. In realtà il mio personaggio. Dobbiamo provarci, ne sarebbero morti gli altri. È totalmente devastato dal fallimento del piano complessivo. Ma che ha avuto successo? No, in realtà no. I vampiri non sono entrati. Successo minore, dice. Non sono entrati. Comunque dai morti, eccetera, quello è stato disastro. Vittoria pirrica. E il gesto di Giulio è chiaro che il mio personaggio non è assolutamente felice, però uno si sta un po' rassegnando. Per gli ascoltatori parliamo del fatto che Atanas, per respingere la folla impanicata, abbia squartato un paio di popolani. Ma non sono gli ascoltatori. No, ma sono i nostri amici immaginari. Ci piace. Enrico Cantabrigo. Ciao gatto. Ciao. Comunque vabbè. Di fatto ha se non ha in realtà paradossalmente con quel gesto lì ha salvato gli altri. Esatto. Dopo avevamo più paura di me che dei pipistrelli. Ti sei perso tra l'altro la sigla dell'altra volta che si trova qui. Oh cazzo, ma che cazzo faccio? Di sigla è birra, nessuno mi può giudicare. Ma il bicchiere di arci. Ha messo la birra nel bicchiere di arci. Ha messo la birra nel bicchiere di arci. Sai quante calorie sono? Altro, cioè, se non ci metti dentro della proteina ne un altro nuovo anche per i si mette a fare flessione per delle barrette in un cartone c'è un personaggio che è troppo dice solo una parola e quella parola è proteina. Comunque per fare breve il per fare breve il nostro riassunto abbiamo subito la cosa dei vampiri, però non siamo morti e vabbè, no. È morto un po' di gente, ma insomma 17 magari 17 c'erano 7 c'era un panino di serie. Comunque in realtà il prete era abbastanza contento paradossalmente. Lui è ancora vivo, è già qualcosa. Però è arrivato il capo della il barone proprio, vero e proprio. Il barone Vargas. Il barone si è presentato dalla chiesa chiedendo che tutti quelli che erano in chiesa, insomma, venissero a testimoniare per ciò che era avvenuto. Esatto. Allora io avevo proposto però al prete parlare prima con lui, certo, per spiegargli la gravità della situazione, perché ci sono delle progenie vampire che in giro per la città. Mm-hmm. E siamo andati a parlare con lui e lui si è rivelato effettivamente un pazzo furioso. Eravate e... è stato bellissimo perché ha cominciato a dire cose senza senso, tipo sì, bisogna fare. Avevano senso, io però non avete capito. Se ci fossi stato io. E il prete era tipo... E quindi insomma lui ha decretato che in realtà la festa per il sorgere del sole, che non mi ricordo, il sole splendente sarà la soluzione, esatto. Fatto sta che il braccio destro del barone, Izek, ha deciso bene di utilizzarsi come carne da macello, nonostante noi gli abbiamo spiegato che se moriamo prima noi poi moriranno anche gli altri, ma non ci sono niente da fare, e quindi ha deciso di utilizzarci per stanare queste progenie vampiriche. Siamo andati dove le abbiamo viste l'ultima volta, ovvero la casa di Von... Del barista, del barolo. E pompiere, due col canna dei pompieri con le sirene spiegate, avevo paura aver dato fuoco, ragazzi, deve sempre essere Eric Van der Voort. Van der Voort. Va bene. Comunque di fatto non erano lì. E quindi ora dobbiamo capire. Adesso sarà una specie di sacco di sangue. Ho passato la mattina a picchiarlo. Povero. Adesso di fatto dobbiamo cercare le progenie vampiri che prima che l'ho proposto, ma sia lui che l'Asa esatto. Non l'hanno voluto fare. Far cosa? Quindi uscite dal negozio di bar e riportate a Isaac quello che avete e quello che non avete visto. Però qualcosa avete visto. Ma abbiamo visto sostanzialmente dove si nascondevano le progenie. Esatto. Nelle casse al piano di sopra. Probabilmente loro erano lì. Delle casse piene di terra che usavano come rifugio. Sì, l'oculo. Tuttavia, come era prevedibile, in realtà non si trovano più lì, quindi bisognerà andare a stanarle casa per casa. Esattamente. Fate rapporto a Isaac e lui mi sembra insomma comunque un pochino più disteso rispetto a prima, che era un po' ostile nei vostri confronti, come lo è in generale verso... Vabbè, anche perché io ho avuto la segnale ancora. Cioè lui è felice che non abbiamo trovato le progenie. No, non dico che è felice che non le abbiamo quasi trovate. Fatto un fight contro la guardia cittadina. In realtà perché se voleva intimidire il capo della guardia, se si è risparmiato del sangue è meglio, perché se le aveste trovate probabilmente sarebbe stato uno scontro molto sanguinoso. Comunque vi ascolta più. Certo, io sarei per vi dà l'impressione che si fida un pochino di più di voi dato che siete stati al suo gioco. Sì. E quindi vi dice: bene, Mastro Vardistran, le sue parole come sempre sono che molto non sagge. Si chiamava Mastro? No, infatti, e soprattutto mi ha rivolto la parola come un essere umano intanto. È già qualcosa. E poi mi ha tirato una slecchinata, pazzesco, che io però farò finta di ritenere superiore. Di ritenere assolutamente sincera. Non ti sentivi un po' umide le chiappe? Non so se è progenio. Sono d'accordo con le sue sagge parole e per questo vi do questa lista di posti da perlustrare della città. Su che base è stata stilata questa ci lista? Ci siamo divisi con le guardie, le case per zone di competenza. E quindi casuali? Dipende. No, va bene, comunque ci sta. A seconda di come sono dislocate le unità. Mm-hmm. Vi chiedo per favore di controllare queste abitazioni. Ma sono abitazioni di... privati. Ok, cioè gente che ci vive, cioè non sono tipo abbandonate. No, sì, okay. Tutte case abitate nel caso questi mostri abbiano deciso di lei ha di prendere... un, possiamo usare una sorta di distintivo della guardia cittadina, onde... Cioè io ho i distintivi. Sì, vi preparo faccio preparare una lettera di esatto. Col sigillo del barone per presentarvi. Molto bene, grazie mille. È una testa di bambola. Va bene. Aprite. Vi chiede quindi per favore di visitare e controllare questi luoghi nell'ordine che preferite, non è particolarmente significativo. Una domanda, mi sono riposato io? Sì, sono riposati. Direi tutti, sì. Sì, abbiamo passato la notte. Sì. I luoghi sono la taverna. Perché non abbiamo cercato delle tracce all'uscita della chiesa? Ho un'altra domanda, dove mi sono riposato? Non volato. Allora, dopo aver dato le reliquie al perché avevamo preso dei cadaveri. Come sono allora, io ho le reliquie, ne ho una in tasca non volano, e il sacchetto in mano. E tutto è tu quindi? Sì, perché sono entrato io con quelle. Sì. Le ho date al prete, dopo. Tieni, custodiscile. Però durante la notte, se non c'è nessuno, voglio provare a rubarle. Cioè, sono chiusi dentro, quindi non sappiamo come siano andati via. Se riesco a sostituirle con altre ossa, se no... Sì. Non le stesse ossa, ovviamente. Quindi diamo però... per scontato non sono mai tornate. Non avevamo disseppellito un cadavere da qualche parte? Era l'unico che potrebbe farlo. Quello che avete usato per la prima volta. Non erano delle ossa di pollo o qualcosa del genere? No, non avevamo disseppellito. Ah, sì, delle ossa di pollo avevamo usato. Uso delle ossa di pollo. Vabbè, va bene. Non abbiamo usato delle ossa di persone. Ah, sì, è vero, avevano seppellito qualcosa. Ah, sì. Allora sì, ho quello. Herbert, ma no, come si chiamava il tizio a cui avevamo fatto il teschio? Sì, avevo tagliato la testa a un cadavere. No, avevo tagliato la testa a un cadavere. Avevo tagliato la testa a un cadavere. Tra l'altro ritrovi quelle che hai dato a no, ai vampiri con preciso, scambio e sacchetto. Non sono probabilmente se non c'è troppo casino nella chiesa. Quindi troppo casino intorno al posto in cui hanno qualcuno di cui no, si fidano, secondo forse, me cioè, sono andate a colpo sicuro perché no, sì, aspetta, pensa al discorso del poter entrare sotto invito e tu hai secondo me sono andate a casa di delle adesso progenie. Siete andati dal barista e hai provato hai contato il sacchetto delle ossa che ah, finito. Sì, dopo la lista di chi manca hai ragione, bravo, ed ecco perché non hanno bisogno di qualcuno per giusto. Ok, non ho le reliquie secondo ne ho una sola. No. Perché dopo le rubo, non ho ancora fatto lo scambio. Ah, okay. Giusto, bella intuizione. In pratica pensiamo che potrebbero essere andati a casa di qualcuno di quelli che hanno preso cadaveri che non ci sono più di dalla chiesa. Perché noi il ragionamento nella faccia questo. Di Katta pare che la storia non preveda questa cosa. No. Il ragionamento vabbè, è questo. Suppone che loro ammazzino qualcuno che poi sappiano dove non, abita. No, non lo ammazzano, lo fanno diventare progenie a sua volta. No, beh, lo prendono semplicemente. Adesso cioè, che siete un po' navigati con i vampiri, sappiamo che sapete che il processo per progenizzare qualcuno è lungo. Prevede di risucchiarlo completamente. Però possono aver rapito qualcuno. No, quello sì. Noi sappiamo che mancano dei corpi che loro hanno preso per nutrirsi. Noi non sappiamo se sono. In realtà noi non sappiamo se erano cadaveri o se qualcuno l'hanno, tra virgolette, salvato e portato via vivo. Beh, vabbè, sappiamo. Le urla certo, di sappiamo Mac, che aveva le righine, questi poco ma sicuro. E non erano comunque sappiamo che non ci sono tutti i corpi che ci sarebbero dovuti essere. Quindi intanto ragionissimo. Quindi visto che a chiedere una lista di chi manca. Quindi visto che loro. Io non trasformerei mai. Sempre che riuscire un cadavere bollito. Visto no, quello è l'abbraccio. Cioè, questi hanno le regine. Visto che loro devono per entrare in un posto devono essere invitati. Esatto. O sono andati a casa di qualcuno che hanno rapito e hanno convinto a invitarlo. Sono andati in un posto un luogo non pubblico. Esatto. La locanda potrebbe essere un posto del genere. Però. Perché loro possono entrare nella locanda? Sì. Allora, cioè, come la funziona? Descrizione del. In realtà forse no, dell'essere perché, invitato. Perché in chiesa. Cioè, parla di qualunque edificio. O... Adesso vi leggo cosa dici. Non so, è aperto interpretazioni nel mondo. Cioè va bene, il mondo reale era da un esistente. La domanda è, sono le progenie a interpretare o... Le debolezze dei vampiri sono quattro. Interpreto che va bene. La prima, forbiddance, che in italiano vuol dire impedimento. Sì, non può entrare una residenza bando, senza un invito bando, da uno degli occupanti. Quindi è una residenza. Cioè la locanda solo se è la casa anche del locandiere. Chi è stato alla locanda sa che cosa. La chiesa è la residenza del prete. Sì, neanche non ci abita il prete. La seconda debolezza in realtà, dei vampiri. Nel mondo come è inteso D&D lì, 99% abita dove lavora. Ma dipende, c'erano Madonna, luoghi. Che classista di merda. No, c'erano i luoghi pubblici. Pochi però. Su, che cioè, non penso che loro si rifugiano. Da te non me l'aspettavo. Beh, quello che hai sempre sognato. La seconda debolezza dei vampiri. Le botteghe però tutte sì, ecco. Sono danneggiati dall'acqua corrente. Prendono 20 di danni da acido se finiscono. Vabbè, allora diciamo che sono tipo corrente. Zingari. Beh, qui ci sono gli zingari. Quindi dice che nel fiume non li troveremo. Sono zingari più non brutti sono degli zingari. Sono zingari peggiori. La terza zingari. Debolezza dei vampiri. Sono zingari al quadrato. Porca il troppo, colpo al cuore. Okay. Se una arma di legno perforante. Se ne fai molta paura. Esatto. Fatta penetrare nel loro cuore quando sono incapacitati nella loro bara sono paralizzati finché il paletto non è rimosso. Sì, mi ricordo questa cosa. Però non muoiono. Sono paralizzati. Sono stato. Però li devi beccare quando non possono. E la quarta debolezza è la ipersensitività al sole. Quando sono nella luce del sole prendono 20 danni secondo radianti all'inizio del futuro. Un'acqua corrente pisce come acqua. Ma è per quello che Katta non ci vuole far salire. Ah, non può stare nell'acqua. Perché così non puoi prendere luce diurna. Che proprio, guarda, te non me l'aspettavo questa cosa. La cosa della seconda della... Non sapevo neanche che livello. È tipo a livello 5. Stanno nell'acqua corrente. Io credevo che lo già e non lo usaste perché chi cazzo prende luce di loro? Io lo uso nell'altra. Quindi, resilienza. Allora, come dice lui, in realtà dovremmo guardare prima nei luoghi pubblici. Vabbè, facciamo una cosa. Quali pubblici sono nel senso i luoghi? Quanti luoghi abbiamo? Dovrebbero essere pochi. Tre? Vabbè. Il primo è la locanda, appunto. Sì. Dove, beh, fortuna vuole che sicuramente non ci sono fogne in cui possono essersi nascosti. Però in realtà... Poi, la città. Il secondo è Casa Vaktar. Non è la prima volta che sentite questo nome. Davvero? Davvero? No, in realtà è tanto. È la villa dove tutto è cominciato. Io brucerei tutto. Beh, strano, non l'avrei mai detto. Giusto. Non so. Villa Vaktar. Noi l'unica cosa che abbiamo fatto è andare. Non so bene come si pronuncia effettivamente, però il W-A. Vabbè, va bene, ma. C-H-T-R Vaktar. Avete sentito voi due questo nome sussurrato quando eravate andati a prendere. L'olio. Andate a prendere. Non sono andato a prendere l'olio io. Chi c'era? Solo lui. Giulio. Loro no. No, loro, io e Salla sono andati a prendere l'olio. Esatto. Dal piano di sopra sentivate delle parole e avete percepito questo nome. Ah, i tizi che facevano il rituale. Sì. E poi c'è il buon vecchio Blinsky. È vero che mi ero fatto... Il giocattolaio. Mi ero fatto il nodo di uccidere i tizi che... Posso chiedere... Fare un'ultima domanda sul discorso del invitare. Cioè, devono essere invitati con la consapevolezza dell'invitante che loro sono quello che sono? No. O semplicemente uno gli dice, prego, entrate, sì, e sono a posto? È una lezione di filosofia questa? No, no. Cioè, per esempio... Se tu no, nel senso... Invito, se va, ergo vale su. Se tu... Cioè, se la progenie di noi bussa, uno apre e dice, prego, entri pure. Avanti, e sei fottuto. Se uno dice avanti, che è di fiore, è già a posto. Di brutto. No, perché ad esempio la locanda, anche solo se il tizio abita lì, allora bussa, però, prego, entrate pure. Vero, però secondo me è difficile che siano le locande. No, però hai capito cosa voglio dire. Cioè, loro bussano, prego, entrate. Dipende, il candiere non dice andate. Se fosse un vampiro sotto mentite spoglie, tu lo inviti a entrare. Anche se non sai che okay. No, perché immaginiamo alla locanda, loro dovrebbero entrare con l'invito, bussano il locandiere, prego, entrate pure. La cosa più facile per loro è... L'ha invitato il vecchio delle bare, sì. Cosa più facile per loro, ad esempio, sciarmare uno all'interno. Sì, me lo ricordo e ve lo dico prima. Dirgli, invitare dentro, sì, amico mio, vieni. Quindi in realtà potrebbero farlo con qualunque residenza, di fatto. Beh, se loro stavano facendo un rituale malvagio, potrebbero essere un bel posto. Perseguitando. Però effettivamente mi ha fatto notare che basta che sciarmino una persona, quindi in realtà potrebbero essere ovunque. Cioè, prendo le reliquie e le lascio nella locanda. Però abbiamo tre posti da guardare. Sì, però... Sì, è vero. Bene. In teoria lui potrebbe fare tipo venditore ambulante, porta per... Scusi, posso entrare un secondo? No, a posto, vado via. Tipo così ogni caso. Ah, e poi vi ricordo un'altra cosa che avete in sospeso. Una piccola cosa. La bambina di bambina. lo sapevo, però... Vabbè. Pace. Vabbè, con il Coyona e Coyonovic. Cioè. Sì, i coniugi coglioni. I coglioni che cosa fanno, scusate? Era con la bambina. Badano la bambina. Ah, badano la bambina, sì, no. Se no gli taglio le mani. È lì che dice, mi ricordo. È molto facile. Voglio la mamma, mi riportate, ma buona sera. È evidente che in questa puntata Laz sia andato a visitare di nuovo la cogliona. Arce è on his way. Possiamo metterla a fare le elemosine alla bambina. Considerando che sapete che qua trovare non sono tanto benvenuti. Allora, direi che per cominciare dobbiamo tornare in chiesa. Ok, va bene. Deve rubare le reliquie se vuoi. Ma che cazzo? No, no, scegliamo una di queste cazzo di case. No, vabbè, se loro ci accennano a sì, questa cosa, Giulio ci ha detto che ci accenna. Io proverei ad andare a vedere allora da lì. Direi di partire da Villa Vaktar. Okay. Dai, con la Villa casa Vaktar. Di Villa. Sappiamo che cos'è. È una delle ville più belle e grandi della città. Forse seconda solo a quella del, del barone. E i Vaktar chi sono? Sono una famiglia importante di Vallachi. E probabilmente quando siete stati alla locanda, avete parlato con la gente del luogo, vi ha chiacchierando e chiedendogli cosa, vi hanno raccontato che Lady Fiona, che è appunto la maledice del così, lo sanno tutti. Un mostro, uccidiamolo! Ma non era un mostro, era messa su una piazza d'argento. Non ha mai avuto grandi simpatie per il barone. È una donna che si trasforma in un orco. È vero. Anche Baron Vargas. Che carattere. Sta qua. Si è sentito il volume. Piano piano si è sentito orco. Mi sa che è qua. È stato bellissimo. Anzi, un altro urlo, facci caso. Vi hanno detto chiaramente che probabilmente nessuno odia il borgomastro più di Lady Fiona. È una persona così stabile il borgomastro, non capisco perché. E più volte devi essere felice. L'hanno sentita dire, piuttosto che servire un pazzo, servirei il diavolo. Lei abita in questa vecchia casa nella città e raramente lascia la sua... magione. Ma scusa, le prove sono inequivocabili. Lady Fiona Vaktar e abita in questa villa. Ed è la capostipite della famiglia Vaktar. Sapete che ha due figli adulti, Nicolai e Carlo, che chi è stato alla locanda ha visto sbronzarsi al bancone. Sono due giovani. Perfetto. Che di voi lo è stato. Possiamo uccidere. Io. Lui è stato. Possiamo. No. Cioè, possiamo fare domande senza che nessuno si interrompa. Esatto, possiamo. No, cioè, è vero, sono Arci e Colin sono stati. Allora, Arci sì. E sono dei combinaguai del posto. Cioè... Io ho visto lo stesso. E com'è la botola che voi non sapete, ma c'è una botola. Esatto. Perennemente ubriachi in cerca di rissa. Vabbè, casinisti. Vabbè, ce lo direbbero anche le guardie. No, quando avete chiacchierato, queste sono cose che sapete chiacchierando con la popolazione. E poi sono scritte nel tappeto. No, nel senso. Io ho chiacchierato con la popolazione. Però mi è scritto che... Vabbè, ma come fai a saperlo? Io lo so. Ha anche una figlia, Lady Walker, che però tiene segregata in casa. Tipico, e questo si sa, cioè conoscenza comune. Vabbè, magari è famoso. Cioè, se le guardie nel si momento vede in cui abbiamo chiesto qualcosa di più... Cioè, è un po' come Gianni Morandi che mangia la merda. Cioè, non sapevamo riconoscere... Ciao Gianni! Non è vero che Gianni Morandi mangia la merda. Vabbè, la leggenda che narra che Gianni Morandi... Io ci credo, ok? Allora non esiste Babbo Natale, io ci credo. Allora non esiste 13 Piero. Nonostante sia nota questa, diciamo... animosità, il borgomastro però non affronta Lady Fiona, e perché si dice che la sua famiglia abbia insomma delle conoscenze importanti. Delle conoscenze importanti, dei legami importanti. Se già tagliato. Vabbè, ma insomma, il borgomastro è il capo della città, quindi ho legami con la sorta di mele che ha fatto la mia nonna. Già tagliato, ho detto per la gioia di Giulio. Stai calmo. Quando sono arrivato per la gioia di Giulio. Stai calmo. Questo è il mio, non si mangia. Non è per quando arriverà in fondo. Hai finito la descrizione. Beh, perché hai buttato via quella carta che serve che a Giulio? Che se sono le voci del... Io, vabbè, Giulia Ligo. Lo stavano sentendo anche loro, però propongo di sbronzarci con i fratelli. No, io, nel senso, ma che ore sono del giorno? L'avete fatta la mattina la cosa della bara, del negozio di bar. A metà mattina, perché è tempo di organizzare l'acqua, tutta sta roba. Raga, ci vediamo qua tra un paio d'ore, vado a fare un giro. Raga, fermi tutti. Chissà dove andrà? L'inspiration per gli anni l'abbiamo già preso. Quindi è ora di staccarlo. Ora c'è fretta qua, bisogna entrare però e controllare. Quindi ci dividiamo. Però visto che split the party versus le progenie, visto che non è andata bene l'ultima volta, se la tizia odia il borgomastro, se noi andiamo là con i distintivi ci chiude la porta in faccia. È proprio... beh, non usiamo il distintivo, ci chiude la porta in faccia. Ma boh, e apriamola. Non possiamo andare a bere con i due fratelli e entriamo con loro. Ma sure. Li facciamo ubriacare e entriamo con loro. Sì, ma bisognerebbe aspettare la sera, che non è proprio il momento migliore per... Per cosa? Ah, per le progenie. Ok, questo posso dargli per le progenie. Effettivamente è meglio stanarle finché è giorno. Se sappiamo che possono essere in questa villa. Però perché dovete aspettare la sera? Per ubriacarci coi tizi, ma si ubriacano? No, sono già ubriacato. Ottimo! Si ubriacano anche di giorno, qual è il problema? Già ubriachi, devo prendere. Cioè, lo sono perennemente, quindi. Ah, ottimo. Ah, ok. Giorno, no. Vai, chi ha in costituzione alta? Io e Arci. Beh, direi che basta usare un Deception o un Persuasion. Sì. Anch'io, ma mica mi sbronzo. Io riempio i pugni, mica non fanno. Funziona così! Sì, finora ha sempre funzionato. Non vedo perché cambiare strategia. Va bene, andiamo... Quindi così bisogna andare a Lucanda. Che la locanda sarebbe l'altro punto che dobbiamo esatto quello in cui dobbiamo andare dall'inizio. Potremmo dividerci, no, qualcuno sta con i fratelli, anche perché non ha senso che andiamo in sei a parlare con i fratelli, cioè nel senso tutti insieme andiamo alla locanda, qualcuno va con i fratelli, punta i fratelli e qualcun altro intanto cerca così informazioni, visto che abbiamo, come dici tu giustamente, fretta. Dividiamoci all'interno della locanda, intendo. È stupido. Ah, ok, all'interno della locanda. Qualcuno cerca informazioni fra la gente, allora, che c'è, esatto, la andiamo alla locanda e cerchiamo di capire intanto se la notte è arrivato qualcuno di ambiguo. Ok, beh, entrate e trovate il vostro amico Kojonovic e sua sorella Irina. Bella Kojonovic. E quindi prima suppongo se posso le guardie, visto che sanno tutte le voci. Chiedo se in quella locanda chi lavora vive anche lì. Sì. C'è anche la piccola con loro. Cara, bella, sì. Quindi è una residenza anche che è lì che sta giocando con Bayern, che la tiene occupata. Inverosimile. Inverosimile. Io sono passivo. Ma te immagino 5 arrivati e io questa roba. Mi fa così. Diciamo che c'è giù avanti una segua, una garage, non c'è sì, esatto. La locanda che voi vi ricordate benissimo che si chiama Locanda. La giumenta la locanda dell'acqua blu. L'acqua blu. Oh, Waterin. Potete fare con me, ma qual è lo simbolo dell'araldo? Tutte e due. Beh, non ti ricordi? No. Era Ema, cazzo. Non ti ricordi Ema? No, ho capito. Vez te li diceva così, se ti importava. Gli aveva... Te li ricordi quando faceva il cavaliere? Cioè, Ema faceva l'interrogazione. Cioè, tra l'altro, non è che faceva l'interrogazione a quello che del gruppo era il cavaliere, quindi se ne fregava. Cioè, in teoria, l'araldica per lui era importante. Io avevo il mio stemma. Sì, ma in teoria per un cavaliere, un nobile, tutti i motti di merda, anche l'araldica degli altri era importante, ma interrogava tutti, compreso me, che ero il druido. Cioè il druido che mio... perché aveva appena detto Martin, forse. Ho capito, ma il druido che cazzo gliene frega del simbolo della casata X? Sì, ma devi, cioè, devi non l'ha chiesto al tuo personaggio, l'ha chiesto a te, perché voleva che tu ascoltassi. No, le campagne di Ema vanno studiate, non vanno giocate. Allora, arrivata alla locanda e c'è Kolian che vi saluta, vi accoglie calorosamente. Ma come si chiama pure? Kolian Kojonovic di nome. Igor. L'avevo cercato anche altro. Ah beh, Coso, non è importante, Coso. Sarà Coso d'ora in poi. Coso Kojonovic. No, Ismark. Ismark. Coso. Più bello Coso. No, Ismark. Finalmente vi rivedo, ero preoccupato. Purtroppo siamo solo di passaggio, temo. Ma abbiamo una cosa importante. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ora che ci siete, sono. Abbiamo una cosa importante da chiederti, però. Dimmi. Ieri notte hai notato qualcosa di strano? Abbiamo sentito una gran confusione. C'erano delle fiamme venire dalla chiesa. E dopo hai notato qualcuno. E fino a quando è normale. Dopo hai notato qualcuno. Ma risulta che fuori dalle chiese c'è sempre il fiato, magari nella locanda. Ma l'unico movimento strano che ho detto tra noi, il bardo, che più che un bardo è un cantastorie in realtà, periodicamente una volta a mezzo della giornata e una volta al mezzo della notte prende con delle un sacchetto e va verso dove stanno i carri dove stanno parcheggiate praticamente le carovane, ma per il resto non ho notato nulla di strano. Perché non si apre? Devi usare la chiave. Buonissimo, Ash. Okay. Ci sta. Bravo. Che carovane? Vicino alle stalle. Quando dico bravo, tipo c'è un posto dove sì. I viaggiatori con i carri arrivano e parcheggiano, e chi non vuole alloggiare in una locanda o a un altro posto sicuro dove stare può stare lì con la sua carovana, con la sua con il suo carro, con la sua diligenza, come si chiamano, carrozza. Allora, capito. Bravo Coso, mi piace così attento alle cose. Ciao! Ma il bardo è qui presente anche adesso, volendo qui. Sì, vedete quel bardo di cui vi avevo già detto il nome, Rictavio, che è un mezzelfo. Rictavio. Lo attacco mezzelfo. Benvenuto. Ciao! Ho tolto tanta roba, Giulia. E c'è anche scena. Per la... Lo dice anche scena, sono sempre. Sono sempre. Grazie. Se no, tutta io. Una percentuale più alta di partecipazione. Hai portato la quinta? No, la quinta consecutiva, non la quinta in totale. Quasi la totalità di questa campagna. È una settimana che ci pensa la tua cazzo di scheda, comunque. Te lo dico. Quindi, come erano i musei? I musei erano belli? Beh, abbiamo ammazzato sui coglioni. Non dire così. No, però erano gigli. C'era una foto. Com'era il funghetto? Mi fate sale il fatto. Beh, no, infatti, ne ho vista una, era per bello, dai, era. Solo che sto coglione invece di fare le foto a me faccio le foto ai quadri. Non è vero, cioè, solo una foto. Ma stai anche al Van Gogh? Sì. Bello, cazzo. Sì, sei anche insomma. Mezzi insomma, c'era un quadro incontrario. A me piace molto Van Gogh. E non ero fatto. No, sono arrivato in giorno mondo. C'era un quadro al contrario e non ero fatto. Se c'erano due quadri girati al contrario. C'era una foto di una donna, ma testa in giù. All'inizio pensavo fosse fatta apposta, no? E invece no. Sì, sì, sì. Stato uno, scusa. Forse sì. Ma se tu vai a cercare il quadro non è così. Come se tu vedessi l'autoritratto. È come se tu mettessi questo manuale così in una bacheca, ma fatto così. O così anche, perché ce n'era uno così. E non c'era nessun tipo di fare modo di andare contro il soffitto con i piedi. Cioè, questa è una grande. È un ritratto, Cristo, è al contrario. No, era per le progenie vampiriche che possono camminare sul muro. Secondo te il posso intuire, è più grande del blu. Posso intuire cosa abbia fatto l'addetto. Era gigante, eh? Posso intuire cosa abbia fatto l'addetto prima di mettersi su. È abbastanza ovvio. Ti doveva fare una roba sola, però. Aveva preso i funghetti prima. Guarda, doveva fare solo quello. Che c'è, continua a girarsi. Lì l'avrà visto. Cioè, no, secondo me è un ladro, ha cercato di rubarlo, ma se è messo a cazzo e cazzo è veramente con inquietante. I corvi con la luna, che è bellissimo. Tra l'altro è uno dei primi, ma quindi lo vedi subito. Ci sei stato? Ci sono stato. Quello dei corvi? No, quello al contrario. No, che rispa è bello. Quello al contrario. Poi c'era quello di Vermeer. Per farti riflettere. Avevano messo lo squadro. Il museo di qui. No, museo non siamo. Bene, te lo tolgo, quindi metti io danni e ti tolgo il cibo. C'è un museo adesso. Tu conta che ho mangiato la metà di forse di più di quello che manca. Barmar, Vermir, Virma. Ah, questi saliti sulla cupola della chiesa per la scalinata, a chioccia. Dai, l'ultimo pezzetto. Io uno te, uno io, uno Vez ed è finita. Dal ginocchio come va? Il mio va bene. Ma tu? Sì, un giorno in cui ne fai 15 km. Una te, uno io, uno Vez, la finiamo qua. Ho fatto 400, quanti erano? 437. Ma con me Giulio lo mangio un altro. No, è 360. Ma già era per darla agli altri. Non hanno ragione. Sicuro? Insomma. Corrompo Giulio il master con il cibo, non ce l'ho fatto. No, il master non se lo merita. Il master non se lo merita. Magari se fossimo al quinto livello una fetta in più per te. Esatto. Sì. Eh sì, è finita. Ho bloccato. Guarda che percepisci. Ti ha scavato subito. Che schifo, nazionale di urine. No, tipo in 0 secondi. Per sbaglio ci ho messo un po' di birra. Ah, per sbaglio. Anche lì. Sì, è il mio bicchiere. Tutti i nostri bicchieri hanno della birra. E l'ha già fatta questa operazione, ma. Non è abbastanza tempo. Va bene. No, comunque è bello il Rick Museum. Solo che è enorme. Mi metto un po' d'acqua e poi vieni qua. No, più che altro che. È il museo, solo che è gigantesco. Sono cascate le palle. Cioè, sembrava di essere con la Bini. Ciao, prof. Ci segue. Ma la fame clinica come l'hai gestita? No, in realtà ha saltato dei pasti, so che lo devo dire. Ha saltato dei pasti. No! Vabbè, ragazzi. Sì. No! Come erano i funghetti? Ti vedo un po' spinto. Schifosi come sapore. Vabbè, però. Almeno c'è. Come effetto, però, zero totale. Niente. Cioè, ne abbiamo preso anche quelli tipo al livello praticamente più alto di effetti visivi. Quelli col drago. Cosa più strana che ho visto in camera mia, si chiamavano minchia brutti, però non c'erano, tipo. Sono quelli che dovrebbero amplificare l'auto. Sì, lui ha avuto un minimo effetto stile birretta, tipo mini botta da, cioè sì, un po' botta, però non è che ho visto cose strane. Quanti grammi avete preso? Era una ventina, diviso 10 a testa. Lui ce l'ha consigliato, scusate. Tizio ce l'ha consigliato minore, così. Cioè, se ci avesse detto, però non è il fungo due confezioni, più basso, è il uno degli intermedi, quindi in realtà la dose va abbastanza bene. E non avete sentito niente? A stomaco. No, beh, un po' di botta la fa, però non da funghetti, cioè allora davvero ti fuma la canna che deve. Io le canne, a parte che è più piacevole, no, è anche più piacevole. Come sapore. Cioè, quella è la merda. Ma io non avevo neanche voglia di essere strafatto, quindi quindi dopo si è fatto la canna per così. No, vabbè, non è che lo scopri chiaro. Salla, se tra un'ora lo sento un cazzo, vado fuori a fumare. Cioè, vabbè, prendo una barretta di proteine. È l'unica cosa che si può fare. Cosa? Sì. Le proteine non durano mai. Esatto. Le funzionano sempre. Allora, perché le avevate portati in camera, quindi. Funghetti per mangiare dove cazzo ti pare. Sì, perché è abbastanza inquietante masticare quella roba in pubblico. Ah, grazie. Bene, aggiorniamo al caro Patk. Ah, devo livellare di nuovo, no? Esatto. Sì. Stiamo cercando. Ma come esatto? Stiamo cercando le progenie e. Lì c'è rimasto anch'io. Avevamo appena fatto il controllo con la casa. Siamo andati molto più avanti. C'è stata data una lista di possibili tre posti dove andare. E. Anzi, sei sbarbato. Per la scheda nuova. Per andare in un posto siamo dovuti andare in un altro. Ok. No, quindi ora siamo una foto di speciale, l'ha vista solo Sceo perché qua non l'ha vista nessuno. Ci ha dato tre po'. Ah, quella che ero con un po' fattino. Sì, un po'. Sì, si vede. Vabbè, io perché non ti ho fatto nessun tipo di video mentre eri sdraiato così. Perché? Se guardi quell'angolo. Vedi la polvere. Eh sì, perché eravamo lì. Se fissi quell'angolo dici. Beh, sono passato un'ora, ma boh, se guardi la luce forse. Vedi la luce. Comunque ti hanno dato una lista di tre posti da controllare. Quali sono? Cioè, la locanda. Tre posti. Una la locanda, quella che sono andati quel la, la siamo incontrati. La villa Bacter. Bacter. Beh, non dico faccio battute, però se andiamo alla villa Bacter. E il bidet e il giocattolaio. Ah, il giocattolaio. Ah, sei un po' film horror. Loro quando sono il giocattolaio o Bacter. Loro quando sono andati a prendere l'olio per fare il piano nella chiesa, hanno sentito della gente che faceva un rituale un po' strano e tra le tante parole hanno dove sentito questo in chiesa. No, quando sono andati a prendere a rubare casa, il negozio dell'olio bollente, l'olio io e Salla siamo andati. Hanno sentito così. Sì, hanno sentito però della gente, non ho capito se è in lontananza o nello stesso piano sopra. Che facevano un rituale strano e hanno sentito. Stavo andando per salire e ucciderli, poi ho detto no, stiamo facendo un piano. Tra le varie cose ho sentito Villa Walter. Ma la capostipite della famiglia Walter, Sofia. Fiona. È vero, ha fatto la battuta. Sofia. Non so perché Sofia. Che Fiona è? Fiona. Cioè, vabbè. Ah, sì, vabbè. Allora, qual è la non indagare. Devi essere presente al momento esilarante che c'è stato. Hanno riso tutti, immagino. Abbasserò il volume quando guarderò la diretta che mai. Esatto. Cioè, se vuoi guardare la diretta c'è un urlo di Giulio a un certo punto. Sì, perché Fiona è un'umana che trasforma in un orco, quindi va uccisa. Questa è stata fatta per te, Giulio. Bella, figa. Allora, vabbè, puoi dirgli cos'è, dov'è, tipo, no, guarda. Alzi, vabbè, cos'è, lo vedo. Fai questa foto per Giulio. Grazie. È questa fatta per te. E... sì, non è che ha fatto un murales di Ardetti. Ah no? Caramba. Però abbiamo deciso di rimettere la villa, perché questa capofamiglia in realtà non va d'accordo col borgomastro, quindi andarci sotto il ruolo in questo momento di aiutanti della guardia, così non ci conviene. Ha due figli che si sbronzano dalla mattina alla sera alla locanda. Allora abbiamo deciso prima di provare a raccattare informazioni da loro, visto che la locanda è un altro dei tre posti da controllare, tanto vale andare intanto alla locanda a cercare informazioni. Esattamente come ho detto io, volevamo andare in un posto e per andare in quel posto siamo andati in un altro posto. Però sta calcolando un attimo, cosa c'è? Io comunque, scusa, che lei litiga col borgomastro, noi siamo lì. Noi andiamo lì con i distintivi del borgomastro, sì, per uccidere i vampiri, mica per trombarci la madre. Perché non andiamo prima dal giocattolaio e poi alla locanda? Tanto questi non si muovono, andiamo prima dal giocattolaio, poi alla locanda e prendiamo due piccioni con una fava, perché tanto locanda e Vaktar sono... Beh, guarda. Vabbè, sì, così facciamo, Giulio, ma cosa ce ne facciamo dei piccioni quando stiamo cercando le progenie? Uno, due, tre. Cosa? Qual era? Uno, qual era? Due, qual era? No, fermi, siamo alla locanda in questo momento. No, dai, cioè, non togliamo. Sì, no, ormai era siamo alla locanda. Intanto siamo alla locanda e stavate parlando con Coglionovic. Ci ha detto che l'unica cosa sospetta è stato il fatto che il bardo ogni 2x3 va dai carri. No, ha detto che ha sentito anche del trambusto, ha visto del fuoco alla chiesa. Ma quello non è sospetto. Beh, lo sappiamo cos'è. Stato. L'alba al tramonto, il bardo esce dalla locanda con una mela, un paio di mele e della bistecca di lupo. Di che cazzo mangiano in sto posto? C'è un sacco di lupi, infatti nella locanda ci sono anche due cacciatori di lupi. Ho capito, tutti mangi. Sono costantemente assediati dalle bestie, quindi quelle che uccidono poi se le mangiano. D'altronde, piuttosto che morire. Ho fatto anche una foto per Betty. Ah, non l'ho vista. Ho fatto anche questa foto per te. No, che siamo in zona protetta. Joy. La palla, il canestro, bello. Carino, bella. Vuoi ti mettere like quella? Ah, minchia, sai che non l'avevo visto neanch'io. È carina perché sei il cazzino sopra. Vuoi mettere messo foto delle like di Saga? Le foto che ho messo su Instagram? Ne ho messa una. Non hai messo le foto ai like di Saga? Inghietti sono effetto ritardato. Quelle di Saga sì, tutte. Like? Guarda come metti del like le fighe. Quello metterei. Falso. Mi ho scopato il ditino. Guarda quanto non mette like a nessuno. Allora, ma è... no, a me ne mette il like. Tu, ma tu hai messo le foto? Cerco io. Vabbè, raga, dai. Che falso, l'ho bastardo. L'ho messo su Facebook, però. Falso. Perché? Te l'ho detto, non mette l'ho messo like su Facebook, l'ho messo anche qua adesso. Allora. Ma l'avevo messo. Purtroppo per voi... i fratelli non sono presenti in questo momento. Questa qui no, non l'ho messa perché se metto like devo commentarla. Ma quella poi non metterla. Ma non ti sei fatto foto in cui ordini del cibo? No, il master sta chiedendo l'attenzione. Scusami, è la cosa più importante. Anche questo, guarda. La cosa più. No, basta, c'è da andare adesso indietro. Anche questo? Basta, ho superato l'esame. Anche questo, guarda, tutti te l'ho messo. I fratelli non sono presenti, tu te ricordi, sei stato alla locanda da... quando non è, non c'eri, sei stato alla locanda. E sono, si chiamano Nicolai e Carl. Come? Nicolai e Carl. E sono due casinisti, buontemponi, combina guai. E... cioè, vediamo chi è il più lecchino, cioè, ho capito. Più amico. Tanto per tamarro, passami il cellulare, via. Non ho messo like alla tua ultima foto su Instagram. Che il fiorecchino rosso sudato. Sei proprio che altro si sono figa che avete di nascosto i like, perché c'è tutti. Tutti ho messo like, la tua. Okay. Sono usciti indispettiti quando il locandiere gli ha detto che non c'era più vino. Ma devo commentare sulle braccia. Non c'era più vino? Per loro. Cosa strana, perché di solito il locandiere ben volentieri serve i suoi avventori. Beh, no, lo candiere sta dicendo ai fratelli che ha finito il vino per l'una. Vabbè, forse perché era sta raccontando. Raccontando che i fratelli se ne sono andati via indispettiti. Ma adesso? Perché qualche ora fa. Ma erano molto ubriachi. Poco tempo fa. Allora non sono qua. No, ve l'ho detto. Perfetto. Secondi fa, che purtroppo per voi non ci erano sono. Ubriachi. Però per vostra fortuna, Coglionovic dice che ha parlato di voi. Che al progetto ci sono. Esatto. e ha parlato di voi con il locandiere e chiede se potete scambiare due parole perché potrebbe avere bisogno del vostro aiuto. Certo. Scambiando due parole in cambio di i due tizi che hanno acquistato mediamente, perché appunto il locandiere ha detto che il vino era finito. Salve locandiere, è finito il vino, abbiamo saputo che è finito il vino. Tu sei Rob. Che bella fanciulla. Esattamente, cari avventori. Mi presento. Venite a me proprio nel momento del bisogno. E sono estremamente contento di fare la vostra conoscenza. Il mio nome è Urwin. Urwin Martinkov. Io sono il padrone della locanda che gestisco insieme a mia moglie Danica Dorakova. Vuol dire si chiama? Danica o Danica. Ci frega veramente come si chiama? Danica. Danica. O Danica. Danica di benzina. Dorakova. E questi sono i miei due figlioli, Brom e Bray. Vabbè, dopo la presentazione Brom delle acque nere. E Bray il bastardo. No, non come ti chiami? E Bray il Bray. Come ti chiami? Tu come ti chiami? Cos'è? È un integrato. Vi volevo chiedere oltre a offrirvi la mia ospitalità. Hanno dei nomi molto più originali, tipo di Shrooms, che potrei avere bisogno Dragon di Mash, un aiuto perché appunto il vino è finito. Quindi è finito veramente? Sì, tuttavia ho ancora delle riserve, ma di sicuro non darò fondo per soddisfare le gole di quei due disgraziati dei fratelli Vactor. È invasa dalle cose di papiri, esatto, che noi ci preoccupiamo del vino. Sì. E in questa cosa evidentemente è il vino sacro. Non avete avuto modo di vederla molto bene alla locanda del villaggio precedente. Il vino è la reliquia della locanda. Però l'unica consolazione di questa terra per la popolazione è ubriacarsi con il vino. Non vale solo per questa terra, ma qui in particolar modo ce ne faremo una ragione. Quindi anche se non dovesse veramente finire il vino dappertutto, c'è una sorta di mezza rivoluzione. Esatto. Probabilmente. Ok. Posso dire la mia? Non ce n'è. Cioè, non è il momento. Aggiunge cioè, che voi chiaramente sarà collegato, però è una puttanata. Sa che in questo momento ci sono delle cose più importanti in ballo. Però comunque vi dice che magari non lo sa, però no, è informato di quello che è, perché sono venuti alla locanda precedentemente a dare notizia che appunto a breve si terrà il festival, che quindi e tutti sono obbligati a partecipare, soprattutto anche gli stranieri, quindi anche buon uomo i Koljonovic e gli altri avventori diciamo di passaggio della locanda. Sì, ma non sa che ci sono le progenie vampiriche in giro. Mi scusi buon uomo, posso fare una domanda? Chi è che la fornisce, che la rifornisce di vino? Ottima domanda, signor Pack. Come fa a sapere il mio nome? Divento un orso, salto sul bancone, divento un orso. Che gli ha detto Koljonovic. Posso dirti una cosa? Siete già stati qui tu e Las. E neanche dico il nome. Sono anche stato al Rai Museum, prova a chiedere se hai lasciato i documenti quando sempre. No, carta d'identità, tassa di soggiorno. Non lasci il tuo documento quando vai al museo. Quando vai alla locanda, sì. E Urwin vi fa accomodare in una stanza privata, e con voce, tono basso di voce. Siamo in cinque. Una sala per un prefetto. E 5 persone, ma due sono mezze persone. Gli dice: la mia riserva di vino è quasi esaurita. E sono grosso. Il prossimo, sì, la prossima consegna è in ritardo. E, se mi aiuterete a recuperare il mio vino, vi ricompenserò più che adeguatamente. La vigna e anche la cantina. Cresce l'uva qua vicino. E la cantina è a qualche miglia a ovest da qui. Ma il clima e... è... Vabbè. Rega, dovete fare gli agronomi. Che puttana, cazzo, prima di merda, non c'è mai il sole, riescono a fare persino. Avrei capito la birra. Una serra e c'è un chierico che fa dei light. assaggiate il vino, te. Il vino è dal cazzo. Ah, ok, allora hai ragione. Il vino non è, cioè, anzi, non è solo un posto molto caldo. Sì, ma non c'è mai il sole. Questa, no, le piante in generale, esatto, fanno. Questa è un'ottima osservazione, Sceo, è la cosa. Cioè, nel senso, avessero detto birra, avranno più barbabietole da perché gliel'ho buttata io, cioè, avranno più barbabietole da zucchero, sarà più un settore secondario, no? A servizi ci sono quelli. E vabbè, e allora producono rum, non anche producono tutti, vino. Rega, allora ti sei integrato troppo. Mamma mia, si cadono i tappi adesso. Ti sei integrato troppo. Mi dice comunque che basta, gli basterà seguire la strada della la vecchia strada di Svalic fino a due anni. E ci sono i seguite le indicazioni per la la cantina del mago delle vigne. Si chiama molto bello. Dove sta il posto? Mago delle vigne, quello occhi azzurri bionda. Scusi, ma il fornitore, ho capito dove è la vigna. È a qualche miglia ovest da qui. Non voglio conoscere. Potrebbe andarci con gli olio. Lì fanno il vino, quindi sì, ho capito, ma il fornitore. È quello, lo fanno loro. Lo so che fanno loro chi? Ragazzi, ha un nome, tutto parlando di proprietario della vigna è mio padre. Ok, questa è una buona informazione. No. Tu parli, lo fanno loro, la vigna, la cosa. Sì, ma c'è una persona. Ma quando ti prega di trama e di tutto il resto? Perché se mi fa il fornitore è vestito di nero con una faccia bianca e due denti così. Ah, ok. Mi piace. Nero, da quanto ti porta? Ma che cazzo c'è qui? È strano. C'è scritto che possono cambiare personalità fino a due anni dopo averli assunti. Scritto così. Ai. Cioè, se tu assumi un. Ai, funghetto. I draghetti. Il proprietario della vigna è mio padre. Oh, grazie. Grazie. Diciamo per. Hai preso i funghetti perché si sveglia? Per vicende familiari abbiamo avuto un diverbio e preferirei non andarci io anche perché devo stare dietro alla locanda. Ma è una moglie e due figli. E loro qui con me a darmi una mano. Hanno efficienza. Terremo presente la sua richiesta. Dobbiamo risolvere una cosa. Capisco benissimo. Si fa così. Certamente lo faremo. Poi, come in tutti i videogiochi, tieni la quest da parte. Sì, la scadenza. Control Q un attimo. La scadenza è la sete di vino della popolazione. Tanto male che vada, la popolazione morirà tutta perché non ha più le reliquie. Ma aspetta, al di là di perché brucerò la città e tanti altri. Al di là di darci le informazioni su chi fornisce il vino, qua tutti a parte. Locandiere. Irwin. Il motivo per cui non c'è il vino, però non l'ha detto. Ah, perché non è l'ultimo consegnato. Per non ha detto altro, non sa altro. Chi cerca qualcuno che vada là a scoprire qualcosa è successo. Vai. Magari è stato attaccato dalle progenie. il nuovo rifugio delle progenie è quel cesso di merda di Lavigna. È una gran gnocca, se permetti. Vabbè, andiamo a Lavigna. Lavigna. È francese, ma è una gran gnocca. Cosa c'è? Locandiere. Oste. Invecchia, stronzo. Ieri notte. Ha per caso visto qualche avventore nuovo un po' particolare, magari pervenuto dopo i fatti nefasti che hanno svegliato l'intera città? Che ha ammassato prima di entrare. Ma è tanto che ha capito. Non direi di cose fuori dall'ordinario. Ma se mi tirassi su Insight. Va bene. Comunque se mi vuole dare più indicazioni magari posso esserle più utile. Cioè, so che ci sono stati dei disordini e che se tutta la popolazione è stata convocata per questo evento. Sì. Fagli una domanda diretta, si chiama una persona che non entra da sola. Ma lei è felice? In questo posto sì, perché lo dice la legge, non è che intende in questa locanda. Non me l'aspettavo sta risposta. Non so come andare. Vedete, io credo fermamente che brucia una buona compagnia. Tenti! No, se no uccidi il figlio. Le canzoni, il vino siano no, la ricetta per la felicità e anche per bandire il male. Io credo che il mio orgoglio personale di essere riuscito a fare di questo luogo come un santuario di pace e di speranza. E che cosa sa dei Varkar? Varkar. Ah, quei due disgraziati sono qua tutti i giorni. No, a che sta su. Lady Fiona. Vabbè, si dicono cose sinistre sulla quella famiglia. Ma è abbastanza comprensibile, insomma, non è tutti lì che pensavano di dirla invece tu. Il barone chiaramente sta allenarci che sta allenando. Sta scomodo a ad alcuni sta scomodo, ad altri antipatico e probabilmente alle Lady Fiona entrambe le cose. E quindi dice che solo per questo si dicono cose così sinistre sulla famiglia. Io so che la famiglia di Lady Fiona ha un molto nobile di discendenza e le radici della sua famiglia, i suoi antenati possono vantare dei legami con la famiglia più potente di Barovia. Strad? Conte padrone comanda? Questo appunto vi sto parlando di più di 200 anni fa, dato che insomma sono molte generazioni che il diavolo non passa da queste parti. Cavolo, e quindi se mettiamo in modo ipotetico si stesse cercando dove possono annidarsi dei vampiri, certo il luogo più indicato oddio è questa locanda. Oddio, non saprei, sul arrivare fino a tanto non direi, perché comunque la signora Fiona è una strenua difensore sì. Dell'ordine e del insomma non è un sì, ma quale criminale. Ma non, quale ordine migliore che non l'ordine della non morte del barone, chiaramente. Probabilmente se cioè lei è da sicuramente quando ha raggiunto la maggiore età che cerca di arrivare a mettere le mani al comando della città e quindi qualunque ci è arrivata molto vicino potrebbe essere, ma è una persona comunque molto diplomatica, non è una che agisce ma diciamo quale miglior di diplomazia che no, vabbè, aspetta, ci è arrivata vicino? Ci arrivò molto vicino quando fu lì per sposare sua figlia al figlio del barone. Qualche anno fa provò a combinare il matrimonio, ma le cose non andarono bene. Quanti anni fa la figlia? La figlia è appena è giovane, appena in età da marito. Perché la tiene segreta? Beh, può essere anche 12 anni appena in età da marito, cioè nel senso 16 anni. Perché la tiene segreta? Purtroppo se il pettegolezzo che corre è che i modi del barone, praticamente questa poveretta veniva trattata talmente male quando frequentava a casa di Vallakovic di Vargas. E che è uscita di senno. La giovinetta è impazzita, in più si dice che il figlio del barone non avesse interesse per lei e questo ha minato la sua salute mentale e per proteggerla Lady Fiona la tiene segregata in casa. Che storia triste, solo la morte potrà allietare. O il buon vino, come dico. No, la morte, i morti sono fortunati. Ma io preferisco il vino. Tu fidati che è la morte. Comunque noi abbiamo fino a sera per trovare. Infatti dobbiamo. Ma oddio. No, non abbiamo. In fino realtà a sera. Non sappiamo. Però loro la notte poi. Sì, però non sai se escono, se scappano. Se massacrano qualcuno. Allora, andiamo a cercare di stili. Tanto noi andiamo in chiesa con le reliquie. Infatti, dovrei andare in chiesa. Sai cosa possiamo fare? Dove potrebbero essere andati i fratelli? A combinare dei guai sicuramente. Forse qualche altro posto dove andarsi da beverare. Ma c'è qualche baretto, qualche bottega, qualche bettola. E il problema è che tutte quante hanno lo stesso mio problema. Che però dice che è probabile che loro intanto siano andati a vedere. Ma quindi scusa, posti. Oddio, la vigna di tuo padre fornisce il vino a tutta la città. Non solo a tutta Barovia. Possiamo intanto allertare le guardie sull'andare a vedere la vigna. Se ci fate caso, vedete delle bottiglie e riconoscete le etichette che avevate visto anche nella locanda. Questa vigna è a 15 miglia. Poche miglia a ovest. Poche miglia. Cosa mia? Cioè, noi diciamo, praticamente è una vigna che rifornisce una regione e noi non l'abbiamo vista. Vabbè. È più importante. Cioè, perché? Ha senso. Là non ci siete ancora passati. Sì, noi sì, adesso la priorità è andare alla vigna. Cioè, dovrebbe essere gigantesco. Cioè, dovrebbe essere più grande in questa città. Il vino possiamo risolverla domani. È molto grande, però. Però intanto perché tutti bevono vino guardie, a quanto pare. È l'unica cosa che fanno. È sicura. Esatto. Ricorda comunque che il... Dopo più di 100 metri là non vedi perché siamo... Non è studiata bene l'economia in sto posto. Come c'è Gesù dentro che spara un po' di vino. È un'interessante affermazione. Vabbè, comunque possiamo dire alle guardie di andare a controllare un vino. Vabbè, vabbè. Bene. Sì. Prossima meta. Ci penseremo noi. Io avanzo la mia proposta. Questi. Diciamo alle guardie intanto di andare a controllare la vigna mentre noi andiamo alla villa. Ma non ha senso dire alle guardie della vigna. Sì, le guardie staranno qua, sono della città, che cazzo viene andiamo a cercare la vigna. Allora, vigna ci andiamo domani, intanto andiamo a cercare se dovesse, la città dovesse essere sotto assalto. Ma quale cosa decide di andare alla fine? Dobbiamo cercare nelle case le progenie. Sì. Abita ancora la... Dobbiamo andare la Vacter House e il giocattolaio. Andiamo al giocattolaio e poi cerchiamo... Scusa, le progenie cattano, non devono mangiare, devono succhiare sangue. Si mangiano. Hanno fatto una bella scorpacciata. Hanno fatto una bella mangiata la notte scorsa e sono pentiti. Boh, per un po' sono abbastanza. Facciamo così, o agiamo di forza, entriamo nel caso di Iva. Tanto il barone non ci dirà mai niente. Vabbè, noi proviamo a entrare, andiamo, non con la forza. Andiamo cioè bussiamo e se non ci fa entrare. Andiamo al giocattolaio. Andate al giocattolaio. Andiamo al giocattolaio. Ma perché no? No, non ha senso. Io vado al giocattolaio. No, vabbè, abbiamo raccolto indizi che ci portano alla villa. Ho capito, dobbiamo... Andiamo così di... alla villa diretta. Certo, abbiamo fretta. Ma non diretta, di Vacter. No, non la vigna, la villa. Ah, la villa del tizio. Ma non ci possiamo entrare, il barone? No, non è la villa del barone, villa è un'altra famiglia. La famiglia Vacter. Il barone gli sta sul cazzo la tizia della villa. Allora andiamo da... No, il barone teme la tizia della villa. Praticamente, però praticamente è la famiglia più potente. La villa. No, io passerei fino dal giocattolaio perché è un posto che dobbiamo passare, non è che ci perdiamo una vita, cioè passiamo e poi il giocattolaio è breve, quindi fate prima quello. La vita, la vigna, però scusate, non ha senso. Abbiamo scusa. Allora, siamo andati alla locanda per raccogliere le informazioni sulla villa. Esatto. Andiamo alla villa. La villa ci ha detto che io vi raggiungo alla villa. Alleata di Strad. Non ha detto che è alleata, ha detto che il suo predecessore aveva il giocattolaio. Non sappiamo la villa di Strad. Non sappiamo neanche chi sia. Ma è che il giocattolaio possiamo entrare e uscire, mentre la villa non lo so. Esatto, cioè il giocattolaio. Andiamo al giocattolaio. Ma non ha senso andare al giocattolaio. Abbiamo raccolto informazioni apposta per andare alla tre posti che devi comunque controllare. Cioè adesso abbiamo due possibilità: o andare dritti alla villa, la locanda andiamo a cercare i fratelli. La villa quanto dista qua? Appunto, l'idea è massimo è cercare i fratelli. Tutti vicini questi luoghi, non c'è un... Cioè, al giocattolaio ci passi, ciao, come stai, tutto, hai visto cose, cioè... Andiamo da questo giocattolaio, però... Sì, vabbè, però è più comodo per me. Giulio vuole uccidere il giocattolo. E tra l'altro il giocattolaio è un infame, perché se vi ricordate il bambino che con i cosi che voleva i giocattoli, il giocattolaio non la racconta giusto. Tra l'altro te devi prendere dei giocattoli. No. Perché no? Perché sarebbe un messaggio sbagliato. Avevi promesso i giocattoli, guarda il paladino. Guarda il paladino. È che lui i bambini li fa solamente invecchiare, non è che... No, avevo promesso, ma infatti gli volevo dare la lezione. Sì, cosa? Che le persone sono stronze. Non è illegale buono. Lui avrebbe dovuto aiutarci per il bene, non per ricevere qualcosa in cambio. La lezione è che tutti invecchiano. Che falso sei! Che falso! Vero. Che lavoro per di soldi, invecchi i bambini a gratis. In più, no, alla dimostrazione che non lavoro per soldi e che al momento ho zero, quindi non potrei neanche comprarlo il giocattolo e non posso rubarlo essendo un paladino. Ma gliel'hai promesso? Gliel'ho promesso, è vero. E questo è il paladino, porca vacca. Perché il bene supremo richiedeva che ingannassi un bambino. Ma anche tu che gli stavo per spaccare un braccio. Master, volendo gli puoi togliere l'inspiration. Triste, ma vero. Se si comporta male. Il master lo fa tutto vero. Il master lo fa tutto. Beh, ho capito. Uso l'inspiration per togliere l'inspiration. Il bambino va educato, non è che il paladino. Cioè, cazzo vuol dire? Capito, ma non si promette una cosa che non si può mantenere. No, cioè, non è che non si può, non si vuole. No, non si può, non ho soldi, cazzo. È un giocattolo. Non è... Come non hai... Io sono. Ma no, qualcosa ci abbiamo. Vabbè, abbiamo la cassa comune. Ma non sarebbe con cui non comprerà giocattoli per amici suoi. No, vabbè, sono soldi. No, lui avrebbe. Che servono al gruppo. No, sono soldi solo miei, di Vez e di Laz. Il bambino ha. Perché tu eri morto e loro ancora non c'erano. Sono soldi alla casa. Ha fatto una cosa che non doveva. Mentito e poi non ci voleva aiutare. Anch'io in realtà ne ho. Non so perché lui non c'era. Tanto che non l'ho affidato alle progenie. Boh, io non ho segnato mai niente. Perché hai soldi, Vez? Perché non abbiamo finora la mia cosa. Vez di quelle 10 minuti d'oro, 15 che avevamo all'inizio, a parte Salla che aveva rubato. Nessuno di noi era qui. Sai che non ho mai segnato un budget iniziale del mio PG. Io ho 15 monete d'oro, 8 di Electro. Io ho 15 monete d'oro. Esatto. Ma chi ce le ha? Io ho 15 monete d'oro. Poi abbiamo i soldi. Abbiamo 15 monete d'oro di partenza. Sì, sai che ci date qualcuno. Tu forse l'hai buttata nel cesso, ma non è se qualcosa l'avete trovato nella casa. No, poi abbiamo il budget della casa che sono io comunque 11 monete d'oro e 35 d'argento. Però più 3 agate verdi a 10 monete d'oro l'una. Vabbè, questo c'è. Più un pettine con petali d'argento, più una pietra preziosa. Vado a rubare da Giulio. Io ho anche una fiala di profumo. No, lo sai che io ho queste cose. Io e voi non le ho io, sono nella cassa comune. Io l'unica roba cioè, che immaginavo dalla casa del tizio le ho date al prete. Esatto, è un luogo dell'anima. Le uniche robe le ho prese dalla casa del barista Baraglio. Sì, 15 milioni, quindi secondo me ci sono andate qualche volta. Le ho date al come il tuo 18. In realtà non le abbiamo quelle 15. Vabbè, giocattolate. Arrivate nel in questo spiazzo in cui ci sono varie non gazebo praticamente simile tettoie che fanno da no lascialo povero che faccio parlare di nuovo se la ricatta ha detto che tutti abbiamo 15 minuti d'oro non lo so io non le avevo segnate ho detto 20 anni fa comunque quando ho iniziato ma in teoria sono nel tu non c'eri quando hai iniziato la campagna sono nel lui c'era è morto anche arrivate nel in questo comunque spazio. Non avevamo 15 monete d'oro no non ce l'ha detto Katta sì no perché ne avevo tipo 12 e ne ho rubate 2 no sì. Ne ho rubate 3 per quello ne ho io in realtà alcune le ho spese no io ne ho 15 adesso ma un paio le ho spese se mi avessi da caso per rubare non me ne rubo 15 questo stockyard non mi ricordo come si dice in italiano comunque immaginatevi questo spiazzo dove ci sono dei lotti dei depositi mm-hmm. Esatto. Di questi tizi i padroni sono questi tizi che si chiamano la famiglia Arasek che affittano questi loculi da chi ci vuole parcheggiare la propria carrozza chi vuole usarli come magazzino e in uno di questi vedete questo carro carnevalesco senza cavalli figo. Dio, sul molto colorato la luce che nel momento non aiuta allora è chiaramente troppo inquietante quindi questo carro è dentro il loculo questo è sotto un tettoio praticamente no, chiaramente si apre c'è il pagliaccio di It sembra che piova però sì, qua piove ma piove sempre c'è la nebbia fa schifo però che c'è dell'uva perfetta vabbè non abbiamo vista quest'uva potrebbe anche non essere perfetta a parte che cresce il vino se fanno l'uva come fa la droga sono bambini spremuti quindi gli Arasek hanno anche un sono i bulbi oculari dei bambini gli oggetti e vendono tutto quello che c'è nella lista dell'equipaggiamento che abbia un prezzo di meno di 25 monete d'oro loro ce l'hanno ma lo vendono a 5 volte quello che c'è scritto nel manuale esatto però a meno che uno vabbè allora bruciamo il carro solo per questo sono bastardi e vedete questo carro molto allegro e colorato e è schifo ci sta male proprio in questa città che non è cioè è allegra però non è per una colorata è colorata non c'è niente colorato. Allora ci sta male, caro. Un pugno nell'occhio. Buongiorno. Non c'è nessuno nel carro perché quel carro lì è parcheggiato. Porta il titolo del carro di carnevale di Rectavio. Sì. E che voi vi ricordate benissimo essere il bardo che alloggia. Bardo. Quindi dobbiamo tornare alla locanda. No, basta, bruciamo il carro in questo luogo. vedete anche appunto un, no, un altro giocattolaio. Cazzo, c'è l'inquisitore, andiamo lì, bruciamo tipo a caso. C'è il posto lì, sì, se vuoi mandare il CV. Fare il paladino a fare il colloquio. Strazione. Inquisitori erano dei paladini. Lì vicino, quasi di fianco. Che ironia. C'è un'entrata buia sotto al portico, da quale c'è appesa un'insegna. Leggete lo slogan di questo posto che dice: se non è divertente, non è Blinsky. Pazzesco. Ah, mi sono... Ma passiamo di fianco al carro colorato. Sì. Cioè, lo busso. Senti un rumore strano. Tipo? Nel carro? Qualcosa dentro che si muove. Perception! Oh, brutto! Dov'è? 20. Cioè, cosa c'è? C'è la finestra e lì davanti. Dici questo? Esatto. Lo fa scorrere quello. No, quella è sbarrata. Non caga la barra. Allora, per vedere dentro al... io volevo aprirla, in realtà. Allora, vediamo. Cioè, ridi da solo, cazzo. Sta ridendo, pazzesco. Il carro... barcolla, si scosse, c'è una scossa come se qualcosa all'interno si fosse appoggiato di peso contro una parete. C'erano dei malacci. Sentite il rumore di legno che si spezza e il grattare contro il metallo, cioè del metallo che sfrega, e un ringhio di qualcosa di inumano. Ok, inizia ad ammucchiare legna sul carro barcolla, ma non muore. Lo apriamo o lo bruciamo? Io Katta faccio prova di natura con un bel 9 per capire se dal ringhio riesco a capire se è un vabbè, lascio che chi parla con gli animali parli con gli animali, poi vediamo. Quanto hai fatto? 9. 9 è un grosso felino. Ok. Vabbè, non è una progenie, possiamo andare. Eh? Che cos'è? È un grosso felino. Miau. Potrebbe essere un pachiderma. No, ma quindi è un animale, cioè, quindi se lo uccido tu ci resti male. Ad un controllo più vicino. Ha sbranato una persona dentro, ovviamente l'animale. Dico, l'ultima conversazione che ho avuto con Arce è stata: se io evoco delle creature in aria, quelle si sfracciano nel suolo, ma sfondano gli oggetti. Quindi secondo me puoi fare un po' quello che vuoi. Questa riga è la mia mossa da giocare. Vabbè, è come i cavalli di strada. Vabbè, i cavalli di strada. Puoi evocare 18 metri ai bordi del carro. Se tu li evochi 18 metri sono delle macchie di sangue secco. Quindi non è molto da druid. Puoi fare anche la pioggia di pesce. E leggi anche l'iscrizione che c'è sul carro che dice: io vi porto la luce, vi porto nella luce, dall'ombra nella luce. Oh, qui c'è, sono tutti fissati con la luce in sto posto. Dall'ombra della luce sul carro di carrellata. Chi è che porto nella luce, dall'ombra, shadow, visto che non ci sono progeni, possiamo andare. Sto sangue secondo voi è umano? Cioè, del sangue. Raga, chi se ne andiamo? Sì, ma raga, se non ci sono progeni. Sì, per me possiamo anche andare. Vabbè, ok, me lo segno. Come ce ne possiamo andare? Scusa, stiamo facendo vabbè, ok, casa, apro la porta del carro. C'è qua, cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Liberiamo l'animale. Non di nostra proprietà, con dentro un animale. Che cazzo ce ne frega? Vabbè, andiamo a parlare con questo. C'è una serratura. C'è un cazzo di animale dentro. Liberiamo, che cazzo che prova ad aprire. Vuoi liberarlo? A me non me ne frega un marrone. No, liberiamo. Mi allontano un po' e provo. Se nessuno li liberiamo, puoi guardare cosa c'è dentro. Sono un druida. Lui non vuole uccidere, non vuole attaccare, non vuole fare niente. Vuole solo liberare. Garrosh, amico mio, vado a vedere cosa c'è dentro. Andiamo a vedere. Allora va a vedere lui cosa c'è. Ti arrampichi sopra il vagone. Ma smetti di chiudere le finestre anche lì sopra. Esatto. Giulio, guarda che non stiamo ancora combattendo, devi scappare. Ci sono un sacco di oggetti, ma ovviamente la cosa che attira di più la tua attenzione è la presenza di questa tigre dei denti a sciabola. Bellissima! Che ce l'ha con uno salvato nella lì, con la con il collare di ferro con una catena. È già a posto. Beh, comunque abbiamo già risolto il dubbio del del bardo sostanzialmente. Sì. Siamo messo 3 secondi. Cioè. Vabbè, allora andiamo verso la villa. Che... se ne andava via con la droga per drogarsi no. e con la bistecca. La bistecca anche due volte al giorno per strusciarsela mentre era drogato. No, due volte, una a metà giornata e una a metà notte, con un sacchetto usciva dalla locanda per poi tornare un po'. Okay. Evidentemente portava la mostra. Liberiamo la tigre. Sì, più tardi magari. Devi lasciare un colpo alla catena. No, aspetta, io vedo, cioè io sto vedendo che ma c'è, ma fuori da Blinsky, giusto? Siete, sì, è un po' più là Blinsky. Ah. A proposito di Blinsky, notti, insieme a questo mostruoso, ma è sempre dentro al carro, proprio sbirciandosi dentro, di fianco a... No, guarda, no, è Blinsky qua dentro. C'è una bambola completamente squartata, che ha addosso dei vestiti molto sgargianti e dei simboli tipici dei vistani, e sulla parte ricamata di questa bambola ci sono le parole: se non è divertente non è Blinsky. Bellissimo. E Giulio, liberiamo la tigre. Andiamo a vedere nel negozio, sì, di questo, beh, e poi andiamo. Cioè, non liberiamo la tigre di giorno in mezzo a città. No, è una bambola. Beh, a voi non me ne frega un cazzo da tigre, no, quindi non la liberiamo adesso, non ci torniamo. No, ma ci torniamo, tanto siamo qua. Quando ho riso prima, dici, no? No, dico, il concetto di quello che abbiamo visto è una vistana morta a fa ridere. No, è una bambola. È una persona morta a fa ridere. Ma è una vistana, sì, ma è una bambola vistana. Che raffigura una vistana, ed è totalmente divelta. Cioè, sì, perché è stata è stata squarciata dalla. Beh, ma magari. Ah, quindi è solo ironia. O magari il bardo. Ma è intelligenza, se non puoi avere due. Sono i funghetti. Il bardo non è un vistano. No, è un mezzelfo. Magari il bardo è un razzista di merda che vuole uccidere i vistani. Su una bambola. Cazzo, abbiamo lasciato la bambina vistana. Vabbè, è camuffata, non lo so. Cioè, la bambola, no, però se si divertente, c'è una bambola strana aperta. Quindi vabbè, guaio. Ormai, io ho avuto l'intuizione che sembrava buono. È un bel guaio, non c'è niente da fare. No, ha detto che poi non il mezzelfo bardo potrebbe essere un razzista che ce li ha con i vistani. Quindi noi abbiamo lasciato nella stessa locanda dove sta questo mezzelfo la nostra vistana. Ci penseremo. Sì, tanto ormai c'è, se lo ucciderà. Sì, vabbè, raga, parte con la zigna. Quindi... appunto, vabbè. Andiamo al negozio di giocattoli. Però il suo padre è ricco, molto ricco. Noi dobbiamo riportarla al padre. Negozio di giocattoli. Toc, toc. Oppure no, sbirciamo le finestre, non sono si ruba aperte. Chi ruba. Allora, ci sono delle finestre con dei vetri sporchi. E dentro notate questa figura abbastanza in carne, un po' bobba, e che note uccidere il bardo. Che tiene un animaletto sulle spalle. Che animale è? Conoscenza natura. Ok, toc toc. 19. Che animale è? Con la scimmia. Bravissimo. Penso che anche con un 1 si riconosce. Non me lo diceva lui. Ci saremmo arrivati. No, l'avresti mai detto. La voglio io, sarà Jack. Sarà un Jack. Quindi quella è una scimmia. La mia futura scimmia. Toc toc. Nonché arma da lancio. Allora, quando bussate, capite dall'interno una voce, il tizio che con un forte accento che adesso però a limitare. Beh sì, invece dovresti. È scritto male in. Cioè, si capisce se lo leggi in inglese. Non ti agitare, capito? Devi tradurre l'errore. Devi tradurre le come fatto. Sì. Cioè, invece di dire welcome, dice welcome. Come sei benvenuti. Benvenuti. Come scusa? Benvenuti. Benvenuti. Esatto. Vabbè, leggi in italiano. Esatto. Forse è russo. Sì, tipo. Blinsky, sì, ci sta. È russo, probabilmente. Benvenuti, amici. Oh, polacco. Benvenuto a lei. Nella casa di Blinsky. Ma siamo già entrati? Abbiamo bussati. Cioè, noi bussiamo e lui dice, prego, entrate. Ecco, non fare così con tutti. È un negozio di giocare. Lo so, però... è molto... dice carico perché evidentemente non ha molti clienti ultimamente, quindi qualsiasi entrata è benvenuta. Ecco, smontiamo l'entusiasmo, non siamo clienti. È carico perché ha finalmente dei clienti. Allora, tutti i giochi che ha 15 minuti d'oro. Tutto questo luogo sembra molto sinistro. Dipende a 5 di rame, però 9 di rame, però va bene. Ti compreso nel negozio con 15 minuti. Per essere un luogo di gioia sembra molto sinistro il suo negozio, il signor Blinsky. Blinsky. Oh, ma Blinsky. La gioia si trova nelle piccole cose. Che cosa cercate, amici? Forse un regalo per un piccolo bambino che bisogna qualche piccolo giocattolo per un ragazzo, un bambino, una bambina. Cerchiamo quattro cose. Donne. Spero di, allora vi faccio soldi. Subito vedere vi faccio soldi. Subito vedere il mio catalogo. Avremmo in mente come delle casse piene di terra per contenere particolari delle progenie, eh? O forse per dire progenie. Bla bla bla. Particolari Perception. Creature. No, voglio dire insane. Allergiche alla luce solare. Oh no no no, qui non almeno. Se volete posterò forse qualcosa per voi e se mette a in che senso? Ecco questo sarcofago. Si mette a guardare in mezzo al casino che ha in questo negozietto. E fa un po' bene, piccolo piccolo dettaglio, la scimmia che si chiama Piccolo indossa un tutù che ha fatto su misura. È molto crastico il tizio lì, Isaac, come il sigaro che sta scimmietta il capo delle guardie. Vuoi insegni di affumare a quanto mi vende la scimmia? Oh, questo è il mio amico, non è in vendita tutto a un prezzo, mi è stato regalato da mio amico Rictavio, non poteva tenerlo nella locanda, bardo. Poteva tenerlo nel carro. Bardo. Sì. Il bardo ha un commercio di bestie. Eh sì. Non poteva tenerlo alla locanda e e tu non puoi tenerlo qua. Me l'ha regalato. Io ma dimmi. Il negozio mi tiene compagnia. Tu non ricevo molto spesso visite. Ogni tanto il barone mi ordina le decorazioni per i festival e grazie a quello che riesco ancora ad aprire. A tenere e tu non la venderesti la scimmia? Ma venderesti il tuo amico bardo? Non è di mia... E denunciandolo proprietà. Alle guardie cittadine? Per quale motivo? Perché tiene una tigre con i denti a sciabola dentro il suo carro. Cazzo vuoi, eh? O una sciabola con i denti a tigre. È molto simpatico. Non è vero, è odioso. Sta parlando sul serio. C'è prova di insight per capire se fa il finto tonto, se è tonto o se no. No, lui non penserebbe mai il test del cui una persona così gentile e innocua come Rictavio possa tenere un attimo. No, è anche per il discorso progenie comunque. Quando mi ha detto lui io è un fermo sostenitore della teoria del barone per cui la gioia e la feste tengono alla lontana il male. Il negozio non sta mentendo, non mi sembra che stia mentendo. No, sta mentendo. Quindi magari non ha aperto ieri notte il negozio a creature particolari. Oh no, le uniche creature particolari che ho qui sono le mie creazioni. E ti spara proprio. Quanto è grande il negozio? 5x5. Ma c'è roba in giro? C'è una stanza. Sì, è piena una stanza. Posso provare a imboscarmi da qualche parte e fare un giro? Cioè, non ha con altre stanze. È pieno di cianfrusaglie. Mentre lui parla con loro, provo a fare un giretto e imboscarmi. Allora, noti le seguenti cose. Le seguenti oggetti. Una prova di. Una progenie? No, cioè, tutto no, a meno che tu non voglia provare. No. Sono avanti lo scaffale allora. Di progenie. Ci sono una serie delle sue creazioni. Ho trovato il calzone. C'è una bambola senza testa che ha, viene venduta insieme a un sacchetto di teste attaccabili. Tu hai giurato che cosa inquietante. C'è teste di ogni tipo, compresa una che ha gli occhi e la bocca cuciti. Poi c'è un impiccato. È divertentissimo. Ma i bambini satanisti di questo paese, cioè, giochiamo. C'è proprio il patibolo con la botola e la bambolina che chiamo la no no adesso lo fai passare dietro di te, un truido. Ah sì, ma poi la tiriamo via. Poi ci sono, no beh, non è che la c'è c'è una matrioska. E ognuna di quelle più vai all'interno più invecchiano. Oh, Metz, queste sono tue, eh? L'ultima è un corpicino mummificato. Perché è il boss. Guarda come comanda. È un bossettino. Voi non potete vederlo, amici telespettatori. Ma vi state perdendo una scena meravigliosa. E vabbè, ma non ci sono altre parti della casa? C'è una porta che intuisce essere lo sgabuzzino dove dorme. Cioè, lui sì, ha. Poi vedi una bambola di un pipistrello con le tipo burattino che servono per fargli sbattere le ali. E poi c'è un carillon con per comprare un pipistrello per il prete. Di quelli che girano, che raffigura dei lupi che rincorrono dei bambini. Beh, ragazzi, ho capito che non hai clienti. Questo costa 9. No, vabbè, aspetta. No, aspetta, però la cosa dei lupi era collegata al festival che hanno fatto, no? Non c'era un festival legato ai lupi? Quello precedente, sì, il festival delle teste di lupo. Ah, no, sì, teste di lupo, non teste di bambini. Cioè, una bellissima bambola che vi ricorda molto, molto un vostro amico. Una bambola da ventriloquo. Il barone? No, non il barone, scusa. No, la rubo fisso mentre lui non mi costa vede. 9 monete la rubo di brutto. Poi anche barbone. Sono cleptomane. E poi un altro. Ah, giusto. Cioè, c'è una bambola a forma di Strad? Sì. No. Cioè, non una bambola, proprio il pupazzo da ventriloquo, quindi ci infili la mano 10. Dentro. Tipo marionetta. Che raffigura Strad, sì. 10. Hai fatto 10. Pregiato. Oh, amico, vedo che ti piace. Quanto costa? 9 monete d'argento. Eccole. Oh, grazie. Non so quanto ne sono grato. Conte Strad. E poi. Adesso puoi girare, vai. Guaio. Mentre prendi quella, ne cade un'altra dallo scaffale. E ti accorgi che anche quella lì è molto molto somigliante, è una bambola che raffigura una donna e ha le fattezze di Irina Giuliana. Ah, prendiamola. Questa come l'ha fatta? E questa chi è? Oh, quella non è in vendita, me l'ha commissionata un mio fidato cliente. Chi? È uno tirapiedi del Borgomastro, uno grosso. Uno con il braccio strano? Sì, Izek, bravo. Izek, Newton, sul cazzo. Lui è un po' particolare, viene da me a dare le consegne per il festival da parte del barone e mi minaccia di bruciare il negozio se non gli faccio queste bambole con queste descrizioni che lui mi dà. E io è una cosa comune in questo posto. Cioè, ha fatto una bambola di Irina per Izek. Izek vi dice che Izek gli ha descritto. Comunque, Irina è un gran troione. Questa non era la conclusione a cui volevo arrivare. Non è la prima volta che ho avuto un braccio. Bravo, Stoker, che troviamo. Cioè, non è colpa di Irina, cioè, poverina. Ma oddio, Giulio, Irina, non saprei. E comunque dice che Izek gli descrive le fattezze di queste. Ma tipo questa che donna. Altre Ma perché ho solo bambole di questa donna? Ah, io lo so, questa è l'altro io. Vabbè, l'avrà vista. Dice, lo vuole una bambola fatta, come dice lui, ogni mese. E c'è sempre questa faccia qua. Fatta sempre con questa descrizione di questa. E le fa gratis perché sono lui bruciato. E sa cosa ci fa. No, ha denunciato questa cosa. Cioè lui fa ogni cosa, fa le bambole di Irene, ma sa cosa ci fa. Cioè ogni mese. Ogni mese è una diversa. No, ogni mese è la stessa bambola. Lui aggiunge ogni volta più particolare alla però c'è ogni mese la bambola tirina, sì, è sempre simile e più ogni volta diventa sempre più dettagliata l'immagine che vuole lui. Signor, da quanto tempo? Da ormai un paio d'annetti che va avanti. Sai, dobbiamo andare dal tizio. Signor Polinski, non si preoccupi. Ma non so io. Comunque, perché sa bene il concetto di privacy. Se lui vabbè, Sceo, sappiamo esattamente che è meglio per lui che abbia parlato senza che signor Mitzka, che non si preoccupi. Comunque mi tranquillizzano queste cose perché mi spiegano perché Katta volesse che facessimo questa parte. Perché è veloce. Se l'avessi smembrato l'altra mammola, però avremmo trovato. Parleremo con Isaac e cercheremo di far cessare questo. Ma no, ma chi se ne frega? No, lui non è frega. No, lo so, ma io volevo ammazzare Isaac comunque. Vabbè, non glielo dici. Sai, no, vogliamo uccidere il tuo unico cliente. Così è uno violento. Non disturbare. Isaac, non le compra le cose, lo minaccia, se non gli brucia le cose, se le prende gratis. Ma chi cazzo gliene frega lui? Va bene, gliene frega lui, gli brucia le cose. Non voglio che lo brucia, fa una mammolina di merda e basta, rega. Non voglio che ingiustizia, non voglio che indispettisca il barone è il mio più grande cliente, mi ordina ogni mese le decorazioni per il festival. Ma noi abbiamo un grosso non ti preoccupare, noi siamo grandi amici del barone. Oh, per fortuna. E anche del conte. Rega, scusa, ma perché non la prossima volta ti ha detto che diciamo Izze che fai sta roba qua, lo fa così dopo esci con Irina. Ma non credo sia per quello, però. Ah, perché gli zecca il braccio storto? Perché non lo causa? Penso sia un bel voodoo. Scusa, visto che Izzy lo minaccia per avere la bambola, perché non lo minacci per avere i giocattoli per i bambini? Dici che è un voodoo. Ci avrà qualcosa a fare. Ho pensato al bel feticismo. Non credo. No, ma hai detto che sono un po' paura. Allora, cosa? No, te uccidere il barbo. È quello di distrarre da ventriloquo. Magari si rompe. Uccidere Izzy. Se vi interessa il... Sì, ci interessa. La prego, mi farebbe un gran favore, signor Polinski. Blitzcrank. Cosa per voi? Riuscirebbe entro domani, se lavora tutta la notte, gliela pago un sacco di soldi. Tutto quello che vuole. Mi fa una bambola femmina uguale a Isaac. La prego. Io invece piacerebbe poterlo, però. Mi piacerebbe poterlo usare con le mani, la prego. Mi farebbe molto felice, tiro fuori le monete d'oro. Allora, io posso fare... Però se Izek scopre che l'ho fatta io, non lo scoprirà mai. Sono morta e sono l'unico bambolaio. Io invece vorrei quella di strada. La faccio un po', la faccio appena comprata lui. Hai preso quella di strada? Sì. Ne vorrei un'altra? Ah, certo. Tieni. No, 9 monete d'argento. Ma la sta mettendo via. Ah, se siete ammiratori, e vorrei un corpo per questa testa. Prego, è la prima del catalogo, è la bambola con... Ti piace Isabel? Isabel dice di sì. Ti faccio Minor Illusion e ti faccio comparire sulla mano la bambolina con le forme di Ismael donna. Questa! Gli do una moneta d'oro. No, non posso, mi sembra Minor Illusion, però... Grazie. Però devi dire alle guardie che c'è una cazzo di tigre dai denti a sciabola dentro a... Qualsiasi cosa. Bravo. Vabbè, quindi signor, io gli do una moneta d'oro intanto. No, è il giorno più felice della sua vita. E dico, domattina ne avrà un'altra se mi riuscirà a farlo. Certo, subito si mette subito a lavorare. Prima che mi scordi. Hai venduto una bambola a forma di stana. Ah no, si posso a forma la di una bambola. A forma di vistana, è razzistissimo. Scusa, hai fatto una bambola a forma di negro per caso? A parte che esistono le bambole negre. Il caro non è a forma di negro. È lui che ha detto a forma di vistana, vero? Hai fatto a forma di zingara, cioè tipo brutta, sporca. No, Ritavio me l'ha commissionata con che avesse degli abiti sgargianti e che avesse le fattezze più simili ai nostri amici cari di stanno. Era una bambina? Una bambola, una figura femminile. Quanto tempo fa se l'ha commissionata? Ma qualche giorno fa, ogni tanto me ne chiede una, non so che cosa c'era. Lui è una persona con un cuore d'oro, secondo me lo fa per perché mi ha in simpatia. E io ne sono molto grato e mi ha pure dato la sua scimmia, il caro piccolo, che è il mio unico amico. Ma io ti ho dato una moneta d'oro, quindi adesso mi vai a denunciare il bardo. No, ci penso io a denunciare. No, il bardo. Sì, a denunciare il bardo, vado a parlare con il capo del guardia in persona. La mattina con la sua bamba. Vabbè. Stammi bene, amico. Dai, che vieni anche sì. Te, che ti diverti a scuoiare le guardie. Vecchie Vanatas. La bambola della Vistana, aveva le stesse fattezze della nostra Vistana, per caso un no, no, in generale. No. C'è l'arma una bambola a forma di drago? Un giocattolo a forma di drago? Sì, sì, posso forse qualcosa nel magazzino e a prendere una cassone. Ne di queste gonfiabili? Cioè, le bambole a forma di Colliona e Vistana erano in prima linea. Un drago? Ah, non so, una roba un po' strana. No, ha detto che forse ce l'ha in fondo, non viene, non è una delle richieste più comuni. Ma come? Il bambino se l'ha chiesto che voleva un drago? Quindi quella di Colliona, sì. Però non aveva i soldi per comprare. Ma io sì. Irina è la più richiesta questo mese. Sì, quello... Tutti i mesi a quanto pare. È Playmate. Mi sa che è tipo... Questo è tipo negozio per adulti. Va bene, andiamo a... Trova la... Ce l'ho o di... O un drago bianco oppure di argento. Cazzo ne fai? Oppure ho Colliona. Devo romperlo in faccia al bambino. Ah, ok. Un drago cavallo di Colliona. Cosa? Cosa aveva detto il bambino? Che lo voleva bianco o d'argento? O Colliona a cavallo di... Boh, ha detto un drago. Media d'argento. Ma glielo bianco, no, se lo vuole di un colore, se lo colora. 9 monete di argento. Io lo coloro con la sua faccia. Fai con la moneta d'oro. Fagli il drago. Ah, certo, ho compreso nel prezzo. Dire effettivamente. Tipo, ma l'oro vedi comunque si sì, tipo un euro. Potete chiedergli anche il culo praticamente. No, no, ottima idea, signor. No, vabbè, lì comunque domattina perché ora posso passare. Qua all'alba sarà pronta. Lavorerò tutta la notte per lei. Grazie. Prendiamo noi quella di Rina. Non è in vendita. Non sono in vendita. Non è in vendita. Sono per il tizio Isaac Newton. Non è in vendita, ma non le vendi neanche a lui. Quindi se ti minacciamo a sua volta. Se arriva e non ce l'ho, mi ammazza. Brucia il negozio. No, Garrosh, mi serve che lasci che faccia questa bambola. Dammi. Va bene, andiamo alla villa di. È un investimento. Che sappiamo, abbiamo avuto una cosa interessante. Che Isaac è. Sì, che il mezzelfo ha sgamato la Vistana e che Isaac tiene d'occhio Irina. Cioè. No, che siamo dei che bravi protettori, è chiaramente infatuato di Irin. Perché si fa delle bambole, no, del cazzo, aspetta, non hai capito. Lui se la fa fare da anni questa cosa e noi siamo appena arrivati. Notate questa cosa. E non è mai successo un cazzo, quindi qual è? Cioè lui non ha mai, in teoria Isaac non ha mai visto, Irin. È inquietantissimo. Evidentemente invece l'avrà vista. L'ha vista su Playboy numero... Playbaromia. Secondo me comunque tra di noi c'è una talpa. Controllate i vostri nomi che avete scritto sulla scheda. Quindi con basso. Una talpa. Chi è Giulio qua? Com'è il tuo nome sulla scheda, scusami? Talpa. Quindi io ho preso un corpo per Isabel, una bambola a forma di Strad che mi deve fare. Io ho preso la bambola a forma di Strad. Ecco perché mi hai dato la cazzo di corpo. Ah, hai trovato la talpa, ecco. Bar di Strad. Bar di Strad. Perché mi dà la scheda di Drago e la Libo? Ovviamente la bambola a questa. Portiamolo da Strad. Aspetta che si faccia la storia. Ci fai la storia. Storia di Tycus. Ah, ovviamente Strad. Questa è la bambola di Strad. Bla bla bla. Se non lo faccio così. Va bene, andiamo alla villa di Sticazzo. Ma la voglio anch'io. Quella è presente il conte che conta. Ma però seriamente, non avvisiamo niente alla locale, no, non diciamo niente. Alla villa e poi dopo con calma stasera. Hai presente questo no, personaggio? No, però una voce ai Colionovici di stare d'occhio alla bambina. Ma la bambina non l'ha sgamata. No, per sicurezza. Beh, però si è fatto fare pochi giorni fa una bambola sì, con le fattezze. No, non con le fattezze, però no, una vista. Cazzi, vabbè, anch'io faccio le bamboline degli ebrei. E la data cioè... alla... Ah, ok. e la data alla tigre per giocare. Chi non lo fa? Esatto. entri a casa stanco dal lavoro, cosa c'è di più gratificante? Salutiamo gli amici ebrei che seguono questa serie di accendere il forno. Quando gli comprate la bambola di Strad, sì, mi dice: ah, dovete sapere che io sono grande allievo di grande maestro e giocattolaio chiamato Fritz von Berg. L'amico Fritz. Ho sentito delle voci che dicono che la più grande invenzione del mio maestro, un uomo meccanico, è da qualche parte nascosta a Castello Ravenloft. Quindi se per caso ci passate... Sì, abbiamo un invito a cena. Che io avrei persone importanti, avrei dovuto capirlo, visto tutti i soldi che avete. Bravo. Se foste così gentili da trovare l'uomo meccanico, prego, questo capolavoro... Te lo faremo sapere. Grazie, signore. Strano. In cambio vi offre... Un giocattolo a vostra che voi desiderate. No, beh, prendi un giocattolo per il bambino. L'ho preso io. Hai tatuaggio sul braccio? Sì. Uno solo per domani. Dai, prendiamo sul giocattolo. Volendo potrebbe anche offrire la falascimmia come ricompensa. La regalata, che strano. Okay. Va bene. Sì. E no, invece, del giocattolo prenderemo la scimmia. Sono le iniziali mie di mia sorella, l'abbiamo fatto tua. Vai, hai la scimmia. Sarò un po' solo, ma... Come la scimmia? Sì, ti ho preso la scimmia. Tu hai scelto la scimmia? Sì. Davvero? Ma ora sarà con me. È nata una nuova grande amicizia. Si chiama Piccolo, se vuoi. Io la chiamerò... No, non barca mi sta sulle palle, la chiamerò Jack. Si chiama Piccolo. Piccolo. Piccolo, come il bar di Las? Chiamalo Aslan. Un bar di Las. Non ci avevo pensato. Piccolo, grande, ci vuole. Chiamalo Aslan. Poi usa le statistiche del babbuino. Se per caso ti può servire, ci dà anche queste informazioni. No, ha detto che la usa come arma da lancio. Io non so esattamente. No. Se la dovresti di renderla non morto. Cerco di farci un po' amicizia e le do alla scimmietta un. È uno strano animale. Dai, catto, come sei volgare. Cos'è che gli dai? Bom! 156. 18 più 3, 21. Oh, siete best friends. È lei che addestra te. Così. Siete super entrati in sintonia ed è molto felice di essere sulle tue spalle. Bravo Jack, a parte di essere a rubare. Comunque ha un tutù, quindi è proprio. Esatto, capisci che se gli togliessi questo tutù che gli ha messo Vinsky sarebbe più contento. È vestito con un tutù. La squarcio, cioè squarcio di tutù. Okay. Squarcio davanti a me. Ho preso male la mia. E adesso porta la più... tigre. Gioielli al vento adesso, tesoro, contento. Vinsky gli dice: prendetene cura. Gli ho anche insegnato a riportare, andare a prendere gli oggetti dalle scaffalature in alto per comodità, a costruire oggetti per piccoli pezzi. Stai forse dicendo che il mio amico è basso? No, io sono basso. Vabbè, Vinsky, è stato un piacere. Ricordati di fare attenzione che c'è una cazzo di tigre. Domattina devi ripassare. Comunque, sì, ci vediamo domattina. Se sarà ancora vivo. No. Che no, non si sa mai, io spero che tu lo sia. Farò del mio meglio per rimanere in vita, signore. Bene, anche perché con tutti i soldi che ti abbiamo dato, allora, finalmente puoi andare. Andiamo alla chiesa o alla locanda? Non vi è piaciuto il... potresti prendere un giocattolo per il bambino? Invece del giocattolo prenderemo la scimmia. Sì. L'ho preso io il giocattolo per il bambino. Sì, a sorpresa. Che brava persona. Non so, che dimmi tu tre giocattoli a cazzo che hai lì davanti, il primo che mi ispira ti dico prendo quello. Te li ho letti prima, cioè ma no, ormai è preso la scimmia. No, basta. Ma uno a testa. No. Sì, ma te. Che poi vai in rovina. Ti ispira il carrion che gira con i lupi che rincorrono i bambini. Sì. Conte Strada non ha mica dato un punto di caratteristica testa. Due, dai, ma non è detto che regala un giocattolo. Giusto, la scimmia la chiamerò Strada. Preso la scimmia. Oh, vabbè, lo compro. Ah, non ho soldi. Ha la 9 monete d'argento. Stradino. No. Non ce l'hai il tuo 9 monete d'argento. Non lo so, io di base non ho mai avuto niente. Che vita triste, scimmia. Puoi chiedergli un omaggio se vuoi. Vabbè, andiamo alla villa di Vapor. Andata al water. Quanto ti stai facendo? Prova a rubare così faccio l'iniziativa. No, vabbè, la prendo e lo ringrazio. Faccio lo gnorri. No, bella. Sì, offre la casa. Tanto, l'avete pagato per esatto. 2 anni tipo di stipendio. Sì, lui l'ha pagato. Io ho pagato. Lady Bacta. Io do una moneta d'oro. Non parliamo quello che anda a visare. Stai pagando più di me. Che vi ha rubato dei giocattoli. No, avvisare i fratelli di stare attenti alla ragazzina, no? Non c'è più di stare attenti alla guardia, no. Deve stare attenti al bardo, dici? O al bardo e a... Guarda la percentuale di utenti interessati. Beh, non sotto. Capisco... Quanti giocatori sono in fronte a questo tenimento? 0.01%. Hanno tolto il supporto di LOL per Mac non aggiornati. E quindi? Quindi il cazzo non cambia niente, però fa ridere perché il Mac è ancora la beta in realtà di LOL, quindi è inutile che rompono il coglione. Però effettivamente sala per lo 0.01 giocatore, ci sta che non si impegnino. E beh, ma perché lo scrivo? Non ha senso, tanto non hanno fatto un cazzo fino adesso. Andate alla Vacta House, non riesco a vedere il posto. Se no... giù. Comunque per Bologna rischiava di vincere contro la Juve, veramente. Beh, ho fatto una bella partita. Come scusa? E non fa gol a Bologna, non so mai. Ho giocato o hanno giocato con gli under 15? No, ho giocato con la Frontina di tutta la giornata. Ha giocato. Vacta House? Sì. Okay. Cioè, il Bologna ha perso 4-0 dal Frosinone e Ronaldo non riesce a fare gol a Bologna. Guarda, Carvigna, nella domanda... Che tipo di clima sei? È neve. Adoro la neve. Adoro la neve. Contaminato e misterioso, sotto il tuo morbido guscio si nasconde un essere dal cuore caldo. Sei bello come il ghiaccio perfetto. Che stronzi che siete lì. Metti un like. Se adoro la neve. Se le palle metti like. Se le palle. Metti un like. Se pioggia. Ma è tutti i climi. Sì. Sei forte e rinfrescante come questo like che arriverà. Ah, no. Che ironia. Siamo amici su Facebook, non ne voglio mettere un like. Vai, catta. Ma metto i negri, come la casa fallo. Sembra disgustata con se stesso. Sì. Chi è questa, scusami? Also seems disgusted with itself. Chi? La casa è disgustata con se stesso. Vabbè, direi che fa tutto parte di questa città. C'è il tetto che è un po' incassato, che pesa... schiacciato da detriti, fogliame, le pareti sono coperte da vabbè, insomma, muschio. Manutenzione a livello elevato. Sì, la vegetazione intorno che è come se la schiacciasse. E, come studiate appunto l'aspetto esteriore della casa, vi sembra proprio di sentire scricchiolarle come se si lamentasse quasi. Sì. E davanti a voi magari vi do anche la pianta. Sì, vediamo già il passaggio segreto. Vai. Davanti sulla vostra destra trovate la porta segreta che porta al tesoro dei tesori. Ma voi non lo sapete. Ma canta. Non guardate l'ultimo. Dice quella col pentacolo. Conosciamo anche l'ultima. Beh, nell'ultima c'è un pentacolo nella stanza principale. Allora, l'entrata però qual è? Ok. Salute. Stai calmo. Grazie. Stai calmo, Giulio. Allora, c'è qualcuno all'entrata? La porta è chiusa. Immagino che sia carino vedete. Bussare. Non vedete. Allora, voi bussate, io passo da sopra. Sì, dai. Da sopra? Sì. Okay. Ci sono le finestre aperte sopra? Ma vai sul retro? Mi avvicino all'entrata. E vai sul retro. E io vado sul retro intanto. Bravo, scusa, che sono 7. Dammi un dado vado. Gigante. Sarà il batacchio. Hai capito? Qua non c'è un batacchio. Cosa con la faccia? Con la faccia? Batacchio. Si chiama così. Muovo silenziosamente sul retro. Tu stai sul retro, noi siamo dire 19. Noi bussiamo davanti, lui fa il giro da dietro, ci può stare. Stavo pensando, ma sì, va da solo con me. Sì. Che occhio che questo edificio è grande, quindi sei lontano da noi. Strad, io parlo alla scimmia, catta. Cioè anche se urli tipo strat, ora che noi arriviamo. Strad, vedi questa moneta. Strad, vedi questa moneta d'oro. Ci sta ascoltando. Jesus Odis. Jesus. Quando entriamo in questa casa, tu cercane altre così e intascane. Ok, Strad. Hai visto come si chiama? Ma sei cazzo di trui! Lei è la scimmia, eh. Mica non mi sa come si chiama il nostro gruppo di LOL. Jesus Odis. Cos'è che hai detto la scimmia? A Strad, comunque. Di cercare... No, si chiama Jack la scimmia. Di cercare monete d'oro e prenderle. È un po' offensivo verso il tuo padrone, però. Eh? È un po' offensivo verso il tuo padrone. Sono io il padrone. Conte Strad! Conte Strad! Ha chiamato alla la fine... scimmia Strad! Alla fine ha chiamato la scimmia Strad. Sì, l'ha detto. Sì, vabbè, ma, non... ma il Conte Strad non sarà contento. Beh, non è mica chiamata Conte. Esatto. Questo è il capitano Strad. Cosa? No, vabbè, ma cosa hai detto a Strad? Bisogna cercare delle monete d'oro nella casa. E rubarle. Tu cosa parli? Te l'ho già detto. Lui è andato sul retro. Nel senso che tu lui sei il druido, non sei davanti alla porta. Sì. Io ho detto appena entriamo a strada, sto parlando con la scimmia, raga. Sì, ma sei un druido che sta dicendo a un animale di rubare del. Allora, la scimmia è il ladro, io sono il druido. Io addestro gli animali. A rubare? No, a prendere le monete. Vabbè, lascia bussano. Io ho già bussato. Certo che se la metti così sembra un furto, ma in realtà non è così. Bronzo, è la scimmia che prende le monete, è una scimmia. La porta è chiusa, è rinforzata con delle bande di bronzo. E, le tue bussate riecheggiano. Un paladino che non sente, un paladino felice. Sei un fianco, sei bianco. Un centimetro. Io sono il paladino che ruba le monete. No, in realtà la persona si vede quando c'era con noi tipo la si l'ha detto questo non sta facendo di fianco, tu sei il paladino lì pronto a entrare, eh? Lui di fianco, oh, mi raccomando, prendi le monete, spettacolo. Poi invece questo ha fatto 20, questo ha fatto 15, non ce l'ha con te che dice una scimmia, raga, 220. Dopo un po' di tempo sentite provenire da... Tra l'altro Ruby è un alleato del tuo capo. E una voce maschile, distributore di punti caratteristici, ad alta voce dice parole: chi è? Cosa volete? Siamo inviati dal barone. Andate, non dovrebbe parlare il paladino. Stanno zitti, lui è sul retro. La mia scimmia Strad non parla, parlo io. Il paladino deve parlare, lui è la voce. Che fa... l'unica cosa che dovevi dire. Perché? Questa odia il barone. Appunto. Certo. Sì, ma raga, noi siamo lì in veste di ragazzi, inviati, sì, volevamo evitare di dirlo perché lei siamo amici del barone, troia. Apri. Viva il barone. Il barone uno. Ma no, ma raga, ma magari le diciamo che lo so, abbiamo detto che l'unica cosa che non avremmo detto era quella. Aveva detto che non volete dirlo. No, pensavo che aveste intenzione di dirlo senza problemi. Chi non sorride non è con noi. Chi in questo momento non c'è nessuno in casa, è tornato un'altra volta. Dai, che cazzo ha risposto? Non è del tutto corretto. Già, penso che forse sia sarcasmo dietro la porta. Abbiamo bisogno di entrare. Dobbiamo pisciare. Vabbè, la taverna. Non disturbate la povera gente. Beh, era meglio dire che siamo col barone. Sì, esatto. Guarda che la voce del gruppo si è espressa. Ci ha illuminato. Dobbiamo... scroto. Però devo dirti una cosa, la sessione è cominciata con lui che ha detto l'inspiration per i piani l'abbiamo già avuta, quindi andiamo e ammazziamo. È stato no, la mia idea è se loro ci rompono il cazzo per il discorso, cioè se noi diciamo siamo amici del barone, c'è scritto qualcosa, magari ci rompono il cazzo. No, semplicemente c'è stata una schermata nera con scritto qualcosa e poi è ripartito. E ora si è frizzato e ora è ripartito. Era il video maledetto, sì. Io ucciderò. No, ho visto che ti ho messo qualcosa, ma non riesco a vedere. Sì, perché ho cancellato quel post. Sarebbe piaciuto, vederlo. E invece non puoi. Ho messo la tua foto spaparanzato sul divano. Con una pancia fuori ci sta. Non mi piaceva, quindi l'ho tolto. Ciao, Ambro. Allora, raga, voglio far vedere una foto. Secondo me, io ho fatto una foto della gente che stava rubando una casa. In una casa. Rubando una casa. Rubando una casa. Ma che cazzo di funghi ti avete preso? E infatti, quando io gli ho fatto la foto. E quando poi... hai detto, tipo, non abbiamo sentito niente. Poi una. Poi una ha cominciato a scappare. E secondo me, questi qua stanno rubando. Ti ricordi? Sì, no? Ce la ricordo. Questa. Secondo me, questi qua stanno rubando. Diciamo, svaleggiando una casa. Quando io ho fatto la foto, ha cominciato a correre. E che cazzo di casa vuoi cambiare un padre del genere? Non lo so, però. Non so, puoi cercare su. Puoi cercare. Scusa, dove. Ma no, raga, la stanno facendo così. Ho preso l'occhio. Forse. Dai, che non gli piacciono le foto a quel tizio. Ma cosa c'ha la targa nel coso? Nella parte sopra? Sì, sì. No, è sì, nel. Beh, sì, nel baule. Nel baule. È gialla la targa, tra l'altro. Sì, vabbè, perché sono. Ma no, le targhe gialle e blu. Blu il taxi. Forse. Anche sì. Perché sono persone speciali. Quindi cosa erano dico? Bianche e me le avevano fumate. Apra questa porta. Dobbiamo pisciare. Non c'è nessuno in casa. Tornate un'altra volta. Ma la voce, scusami, la è di un umano. Uomo. Noi sappiamo com'è che si chiamano. Abbiamo una comunicazione importante da parte del barone. Noi sappiamo che vivono lei, due figli e la figlia e basta. Stiamo indagando per il bene di tutta la cittadinanza. Della famiglia. E poi c'è la sì, a parte la servitù di stiamo indagando per il bene di tutta la cittadinanza. Non fareste bene a collaborare. La mia scimmia ha bisogno. Dobbiamo entrare. Vabbè, a questo punto chi se ne frega. Sentite blatterare qualcosa. E il rumore di passi che si allontanano dalla porta. Mm-hmm. E poi silenzio. Dice dove si trova il lama parlante e noi bruceremo la tua casa. Come si chiamano i fratelli? Lo sappiamo. Nicolai e Carl. Abbiamo alcune domande da farle su Nicolai e Carl. Su Carl e Nicolai. Aprite. Passa un minutino di silenzio. Intanto lui è andato sul retro, non so se sì, contemporaneo. Io ho sentito parlare, come si chiama il coso delle guardie, quello lì con la Isaac. Ho sentito parlare, cioè ci ho parlato con lui. Sì, cioè sì, puoi imitare la sua voce. Allora mi trasformo in lui e provo a aprire la porta sul retro. Comunque minchia, sta coglione la vogliono tutti, la vuole Strade, la vuole sì, Isaac, la vuole Laz, su Play Barovia. Di un anno e mezzo fa è fatto colpo. Le sue qualità sì, perché era tutta nuda, ma con la nebbia si creava quel vedo. Le sue qualità sono state messe in risalto. La porta dietro guarda la porta davanti e c'è una serratura chiusa a chiave. Prova ad aprirla con mano magica e i rimaldelli. Ma porca di quella puttana, è vantaggio, eh? Non ho vantaggio. Sentito? E meno che tu non esori spirito. Sentito, porca di quella puttana. Perché se urli molto forte il volume è bassissimo. L'ho data a tutti l'ultima sessione. Ma non c'è l'ultima sessione. Hai ragione. E niente. E la porta. La guardo se in alto ci sono finestre o qualcosa. È l'unica entrata? No, lui c'è dentro. Guardo se ci sono finestre o qualcosa. Non ci sei. Sopra questo. Perché ti senti la ragazza dietro? Brutta storia, la festa di coso? Festa di laurea di Gabriel. No, c'è una. È solo di quello. L'entrata per la cantina. Presente come. Bella, entro lì. Mi si vado direttamente al pentacolo. Apro quella porta. Non lo sai. Allora. Ma questa è una vigna in giardino. Vai, trovo. C'è sta domanda. Ah, troveremo anche il vino. Hanno finito il via. Finito la porta è aperta. Cioè, cosa hai detto? Non è chiusa chiaro. Ah, entro. La chiudo. Sempre da Isaac. L'apri e ci sono dei gradini di pietra. Scendo. Che conducono a questo. Praticamente una. Vedo un palco di. Pianerottolo? Non si arriva. Pianerottolo, grazie di. Pietra. No, di legno. Non si arriva, non c'è una porta. E di poi acqua. Da lì c'è una scala più lunga che. Sì, si passa da qua sopra. Non vedi i passi. Ma non c'è chiuso, c'è un muro. Che porta a sud. Che finiscono lì, c'è un modo di aprire. Che si allunga da. Verso sud dall'arrivo. che okay. si allunga e porta verso giù questo nella cellar che è questa cantina. Sì. Ok. E per terra c'è sporco. Oh, che strano, sono quattro. Queste due, ci sono queste due scale di pietra che una, in cui sei tu e quella di fronte. E delle impronte che portano nella terra. Mi sa che lì però per terra che portano da una scala all'altra. No, perché vede tutte queste cose. E poi c'è un'altra serie di impronte che punta al centro del muro a ovest. Non vedi i quattro letti? Ma ci sono letti? Quattro letti contro il muro sud. Vuoti. No, con le progenie. Bella. E allora vorrei provare a andare al muro dove finiscono le tracce. Però se intanto vuoi far loro, fai loro. No, faccio te. Che muori così dopo. Allora provo a provo a andare con al muro con la di grandimento, vedi i piedi. Come se fosse cercare trappole, tastare il muro, a sentire se c'è uno spiffero d'aria o cose del genere. Cioè, dove senti il cazzo di una progenie? E come metti il piede? Gloriosi. Come appoggi il piede sul terreno? La terra trema. E scusami, prima cosa c'era volava. Scorderai la TV. Non appena appoggi piede sul terreno. La terra che tremò. Cioè finisce l'ultimo gradino. L'aria sotto c'è la terra, si incendiò, terra. Mette il piede e poi comincia a tremare e spunta silenzio dal fango, dal chi da questi incubo una mano scheletrica porco che ti prende la caviglia e tira l'iniziativa. Cosa che fa? Allora, considera che 12. Che sarà di livello tra il 18 e il 22. No, beh, dai, non scheletro. 12. Tra il 18 e il 22. Scusa. Metz, che grado di sfida sarà uno scheletro in questa avventura? No, magari sono solo delle mani. Hai presente che avevamo incontrato delle mani? E basta, una volta. Mi hanno stuprato le mani. Anche più. Che altro? Questo è uno scheletro, intanto ha due mani. No, è una mano che la uccide. È una mano solo o... Per ora è una mano. Ah, mano scheletrica, ma non con uno scheletro dietro, solo la mano. Però arriva da sotto, quindi. Una progenie mi stupra di brutto. No, il progenie non sa se è scheletro, no? Ma è una mano scheletrica, non è uno scheletro. La mano scheletrica o uno scheletro? La mano. Cioè di ossa. La mano spunta questa mano scheletrica. Ma scheletrica vuol dire magra o scheletrica di ossa? No, l'ossa. Che è attaccata al resto dello scheletro che spunta dal terreno. Però le progenie non possono essere di ossa. No, non è acriptato. Ok. Fatto tipo. Dai. Sono morto. Spuntano. Hai appena tirato 8 punti feriti in più, meno male. 12. Dal terreno spuntano 8 scheletri umani. Ah, il grande classico. 8? Ciao raga! Classico, chi va da solo muore per tre. Vedi come si gioca il trickster? Quello che è coglione. In effetti mi ricorda un po'. Quello che spunta sotto di te prova a prenderti in lotto. Ah, pensavo fosse coglione. Se vuoi puoi provare a... L'acrobazia però. Sì. O atletica, quella che preferisci. Vabbè, minchia, vabbè, non c'è, vabbè, no, può provare. Non c'è il critico, può provare, può l'acrobazia c'è sicuramente. No. Vabbè, se facevi tipo 18, secondo me lo battevi. Quanto hai fatto di dado? Io ho fatto 20. Lui 8 di dado. Non più 12. No. Minimo. No, sì. Vado a vedere adesso lo scheletro quanto sicuramente non. Comunque sto dado fa dei grandi numeri, posso battere, ragazzi. Ti sembra? È in buttare le tastiere che puoi usare. Lo chiedo, non lo sto rubando. Rubandolo sarebbe se avessi fatto così le scarpe. Però hai detto te lo posso rubare. Rimettilo lì. Tu hai chiesto te lo posso rubare. Quindi se lui dice sì, lo rimetti lì e quando lui non si aspetta l'ho preso. Dai, è il mio set originario. Guarda, oh, guarda caso, di questi tre per giare quello che ti chiede. È vero, quello che ha sempre avuto, è vero. Faccio prima. Non fa mai sotto il 10, nonostante questo pezzo fa sempre di ti ribassi. Non so mai quello. Ma no, non voglio anche nell'altro D&D. L'altro D&D usa l'altro dado. Niente. Il primo che attacca. No, ti ha preso. Sei bloccato dalla sua morsa. Stai stampando un'altra scheda. Sarà da solo o c'è Giulio con lui? Io ho bussato la porta con voi. Ah, quindi è solo? Ah, quindi. Meglio sono rimasto. Non abbiamo neanche fatto la mossa del pipistrello. Qual è la mossa del pipistrello? Che schifo. Di solito quando ci dividiamo lui ci lascia il suo pipistrello che è il suo. Ah, ok, pensavo. Abbiamo fatto un'altra mossa di missionario. Due degli occhi che sono spuntati ti attaccano con le loro spade. Lui che ha degli spasmi, se a lui succede qualcosa. Mancato. L'avevo detto che dovevamo pisciare. Adesso fa un urlo. Sì, però è pieno di sotto in cantina. Non so se mancato. Caccia un urlo, non c'era prova di ascoltare. Con questo dado faccio 13 più 5, 18. Devo fare forza o acrobazia? Scusa, che scorregge dei sistemi. Acrobazia. 15. Seguiamo i combattimenti. Quindi io devo fare. Vabbè, scombattimento deve scappare, ma io mi scelto. Sono in 8, muori in un turno, eh. Sei scappato. E questa era la tua azione. Mi muovo. Hai un movimento. No, uso il bonus per disingaggiare, mi muovo sulle scale. Bravo. Non ho mai usato un laser in tutta la mia vita. E scappo sulle scale. Quali? Quelli dietro di me. No, c'erano anche le altre, oh. È vero, no, attraverso tutto il terreno gli attacchi di opportunità sono 8. Esatto, voglio salire di disingaggio e prendo attacchi di opportunità da tutti gli altri. Non le ho viste però. Esci dalla non abbiamo il chierico e sbucano 18.000 scheletri dal pavimento. Beh, va bene. Una volta salito punti fuori e dietro di te ci sono gli altri scheletri che mi inseguono. Ok, non ci sono stati rumori. Io scappo verso di loro. Non possiamo sentire nulla. Che poi chiude la porta della cantina. Beh, intanto noi su qualcosa. No, il cazzo, le faccio uscire. Okay. Come le faccio uscire? Ma no, chiudi. Ma che me ne fotte? Così tanto li ammazziamo. C'è lui. Sono 8 scheletri, ragazzi. Cioè, sono 8 scheletri, sono perché sono da solo e succo. E intanto cosa succede a noi? Vedete uno che no, vabbè, ho capito, con le sembianze del capitano. Ma del cazzo, è vero, noi vediamo Ise. Nel frattempo, che abbiamo detto che cercavo notizie sul fratello. Però la mia voce. Cioè, se voglio la mia voce. Effettivamente, nel frattempo sentite delle urla. Una voce femminile da dietro alla porta. Che dice? Che dice. Era da un po' che vi stavo aspettando. Intanto la porta si apre e vedete appunto questa signora molto elegante vestita di rosso. C'è la foto? Che sì, adesso vi farò vedere, ma voi ignorerete. Perché? No, sei figa. Siamo tutti psio. Vuol fare la guerra con mio. Sei il drago. Il mio strad contro quella specie di lucertola di merda, eh? Va bene. Intanto la scimmia comincia. Scommettiamo. È il momento. Mentre stava per, diciamo, dirvi benvenuti, eccetera, appunto arriva. Correndo con dietro degli scheletri. Solo che per noi. Ma mi continua a seguire gli scheletri? Gli scheletri appunto cominciano a uscire dalla cantina e attirati dal rumore insieme a lei c'è anche questo tizio che si chiama Ernst Larnach. Importa, insomma il suo tirapiedi. È il maggiordomo, l'Erch sostanzialmente. Non mi sembra un maggiordomo quanto più. Ma è possibile che loro siano già entrati prima che io esca fuori, no? Cosa? No, perché noi siamo stati lì un po', perché prima è arrivato il tizio e ha detto ci mando il barone, allora okay, ce ne andiamo. Il tizio è andato a chiamare. Allora mi vedete tornata. Arrivare correndo. Quindi lei guarda si... Guarda che hai il barone, di devi far entrare per pisciare. Ovviamente lei come pensi che sia entrato? Si allarma abbastanza perché... insomma, sono i suoi scheletri che stanno scappando. Guarda, le progenie come pensi che siano entrati? Sembra che qualcuno qua abbia degli scheletri nell'armadio. Una cantina. Una cantina. Qui non abbiamo un armadio. Per corre verso di te e grida le parole. Viva Strato. Supercalifragilistiche spiralidose. Lasciate che i morti rimangano a riposo. I scheletri si fermano e ritornano indietro ordinatamente. Un ibis, un ibis. Io do di gomito a Ward e vedi come si fa. Meno morti, vedi. Non sono un chierico. Sei un paladino più o meno. Allora io da adesso in poi farò sempre la voce della guardia con quando parlo. E continui ad avere l'assetto della guardia. Per quanto? Boh, tantissimo. Ah, è vero, la voce la puoi fare quanto vuoi. Sei Isaac ora. Sei Isaac o no? Sì. E noi lo sappiamo che sei diventato Isaac? Non lo so. Come, dov'è Disguise? Dipende se lui parla con la sua voce anche solo per un attimo. No, la domanda è se lui vi ha detto che faceva questa cosa. No, sappiamo che è andato indietro. Oddio, sappiamo che è andato là dietro. Sapendo che dura un'ora. Ciao Izek, che ci fai? No, cioè, guarda l'incantesimo, qua c'è una prova per vedere attraverso l'illusione. Beh, però lo puoi capire. Nel senso, sappiamo sì, che è può là usare dietro. Se mi cioè può fare un check di intelligenza e investigazione. Intelligenza. Ma anche loro perché sembra possarlo vedere qui. Però no, però devo usare tutta l'azione per ispezionarmi. Cioè okay. Dice to the channel bla bla bla, a creature can use its action to inspect come azione. Vabbè, facciamo così. Isaac, cosa ci fa? Investigazione o se intelligenza e basta? Ma lui è esattamente uguale alla guardia, no? Non è vestito come la guardia, imita la guardia. Isaac, cioè è alto 2 metri come la guardia. L'incantesimo per Isaac camuffarsi. Isaac. Investigation o solo intelligenza? Isaac. What's up? Isaac. Cosa dice? Investigation? Investigation, sì. Ok, ho fatto 14. Isaac. No, aspetta. 15. What's up? Isaac. Com'è? Cosa ci fai qua? Non si era detto che questo era. Dovevamo cercare noi ci fosse parti. Quant'è la CD? È vero, ma. Quant'è la CD? Non so. Un incantesimo. 8 più. 8 più il livello dell'incantesimo. 8 più la tua statistica. 10 più la tua. 12. 12. Ok, io non lo vedo. Allora anch'io. 12 di dado. Cosa intelligente. Tu invece lo riconosci? Io non dubiti, va bene, ok. Cosa gli dici? 2. Lui prova a intenderlo. Io sono sorpreso. Volevo essere sicuro che vi comportaste bene, che cercaste in tutte le, da tutte le parti. Non e vi ho preceduto alla la lampada. E devo fare una prova di deception, sì. Però. Tutti non puoi fare una prova di deception ad un altro giocatore, devi convincerlo tu. Vabbè, ma noi abbiamo già visto oltre l'illusione, quindi no, io e te, ma non abbiamo mica detto. Ah no, ma io e lui. Okay. Io neanche. Comunque vabbè. Lei lo devo fare però. Sì. È proprio uguale a Isaac. Che brutto. Sì, ma non è possibile. Cosa? Ma che merda! Cazzo, sono 20. Hai probabilmente passato. Ma 14. Beh, come forse saprai, il barone non è amato da queste parti, Isaac. Quindi... Beh, voi potete anche decidere di tirargli una comitata del coglione. Per questo ci siamo presentati con ci manda il barone. Ad ogni modo, non c'è tempo da perdere. Dunque, dai, Isaac, è bello vederti. Anche per me è un piacere vedervi e qua ti dovresti insospettire. Cosa? Un piacere. Puoi ripetere la prova. Vabbè, non c'è tempo da perdere. Madame, un grosso pericolo sta correndo la città. Sperare che c'erano 5-8 scheletri che stavano, però tralasciamo. A parte questo, a quanto pare, vi prego di ignorare questo piccolo inconvenevole. Sapete, uno non può essere mai abbastanza sicuro. I miei cucciolini da guardia. In che senso? E io sarei onorato di avere la vostra signoria ospite da me per Straden è si è staccato intanto è entrato dentro. Cioè gli hai detto strada, il momento vai quando l'hai aperto la porta. Va bene, accettiamo una, volentieri di strada. E... Oh, 19 di dado, Bubino. Famosissimo per il suo. Si è infiltrato. Sì, con lo scheletro in faccia. Gli dice però il vostro amico non è il benvenuto qui. Ah. No, ma io me ne stavo giusto andando. E faccio tipo Izek, se vedi Reis, mandalo qua. Certamente. Link. Sei proprio uguale alla mia bambola, Izek. Quale bambola? Bambola. Lo farò certamente. Ora vado a fare le mie cose. Tu dici una barone fare... di merda. Di tipo delle cose offensive sul barone. Hanno avvelenato il fondo. Ma non so se lei mi ha sgamato. Tipo una conversazione del tipo... Dico, ma Garros non era... E me ne vado, però era strano, poi... Izek. Cosa fai? No, vado in giro. Sono andato in orbace. Sì, esattamente così. No, anzi, mi sono fatto spesso. Venite, no, è meglio se torni indietro per loro. Sono okay. 200.000 scheletri. No, me le ha già paralizzate le tizie. Lo so, ma adesso prima... Però può comandarli quando vuoi. cioè, appena Nenica deve sta scoprendo che gli stiamo rubando i soldi. Con i tanant. Si vede la scimmia con tipo il candelabro gigante d'oro. Vi fa accomodare nel salotto. Che dici, Katta? Facciamo, andiamo avanti e chiudiamo. Sì. Se volete possiamo fare quest'ultimo dialogo. Non so sto dialogo. Non so, vai. Se però iniziate a maciullare questi poveretti, potrebbe essere un po' lunga la cosa. Perché? Questo è il dialogo di uccidere certo. Però non ha avuto possibile. Cosa? Cioè adesso vado in chiesa a prendere la rinque e poi torno a vivere. Ruba in modo che il prete non si incazzi, non se ne fa. Non perché si fa. Devi rubarle? Perché se qua ci sono le progenie e poi le posso dare. Servono solo in chiesa. Non servono solo in chiesa. Non lo sappiamo questo. Lui lo sì, sa. Lo sappiamo. Ah, lo sai? Sì. Ah. Cioè, se devi fare le cose, basta che non me le fai sapere. Io cioè, non lo so, che... però. No, io non lo so che cioè, tu ci hai detto che funzionano solo in chiesa sì, esplicitamente. Lo sappiamo, lo sappiamo. Sì. Non puoi rubare lo stesso. No, ma io ne ho già una, tanto non funziona più. Devono esserci tutte. Ottimo. Quindi ci fa accomodare. E fa accomodare. Ci sediamo. Che pacco stare lì. Vi sedete e vi serve del tè con dei biscotti. Ed è molto accogliente. Ok, io aspetto che Garrosh mangi prima di mangiare o bere. Te l'avevo detto. Ricerca in corso, però era quasi completamente nero, era sbiadita, diciamo. E, in questo salotto è molto elegante, decorato. Ci sono questi tre divani molto ribottiti. Ragazzi, il fatto che io vedo lo sciacquone non succede niente, è normale. Tirai una pacca di fianco. aspetta, molto delicatamente. No, come fai a fare? L'ultima volta ha rotto il lavandino. Oh, apri l'ombrello. È partito? Sì. Cosa vuol dire l'ultima volta ha rotto il lavandino? Vabbè, l'ultimo dell'anno ha piegato il lavandino. L'anno scorso. Faccio io dopo, non ti preoccupare. In mezzo al salotto c'è questo tavolo grande di vetro nero. Sì, esatto. Un tavolo grande di vetro nero. Comunque è sul bidet il cassoncino. Alle pareti ci sono vari ritratti di famiglia e al centro il più grande di tutti raffigura questo nobile uomo con un naso rotto e i capelli grigi alle tempie. Potevano fare in un momento migliore. Il ritratto l'iperrealismo. Capite, hai visto quel tizio? Lord Nikolai Vakter, l'ormai defunto marito di Fiona, di cui i figli sono l'immagine sputata. Beh, c'è uno che si chiama Nikolai. Nikolai Junior. Nikolai Junior. E gli altri ritratti raffigurano Lady Vakter, i figli, la figlia e altri membri della famiglia ormai deceduti. E il salotto in un'unica stanza insieme anche alla alla tavola di per cena, il tavolone per le cene, che vedete essere ornato con cristalleria e argenteria e tutti i piatti decorati e abbastanza eleganti. Sono 8 sedie e le sedie sono decorate con delle corna di alce decorate e scolpite. Dopo avervi dato il benvenuto esordisce dicendo: io so perché voi siete qui. Ma sì? Perché? Appunto quello che volevo sapere, voi sapete perché siete qui? Bella domanda. Sembra la mia puntata. 21 su... La morte. Su intuizione. Sì, è in parte, c'entra sempre quella dopo tutto. Cosa che hai detto? La morte. Sembra che lei ci conosca. Catta quando lei dice io so perché siete qui, faccio un'intuizione per capire se ci piglia per il culo o se... Sarà una di quelle delle carte. Cioè dai. Ti sta pigliando per il culo. Eh? Anche se lei sa perché siamo qua, ti sta comunque pigliando per il culo. Cioè lei... no, perché no, voglio dire se lo dice con cognizione di causa. Però no. Ti sta comunque... Lei cioè, lo dice con cognizione di causa secondo quello che crede lei. Ah, ok. Non lo sapete, ma non è troppo lontano dalla realtà. Ma lei ci conosce? Io vi ho osservato. Il mio amico, il mio caro servitore Ernst... tiene un occhio su tutto quello che succede in città. E che cosa ha osservato? Ho visto del valore in voi e le vostre gesta sono state coraggiose e audaci. La strada è meglio che torni qua. E una donna di esperienza come me nota quando c'è della sostanza nelle persone e voi ne avete, e per questo sono contenta di avervi qui, perché forse vuol dire che c'è ancora speranza per questa città. Se lei ha notato se lei ci ha osservato, sa allora davvero perché siamo qua. C'è un grande pericolo che sta correndo la città. E pare che lei abbia tutti i moventi. Esattamente, caro signor Vardistra. Non ci siamo presentati, scusate. Molto piacere, signor Vardistra. Io sono Lady Fiona e questa è la mia modesta casa. Beh, oltre che la casa è bella come lei. Quindi, come un orso. E vedete come ci ha descritto la casa? Sì. Beh, ma anche lei. Che si disgusta da se stessa. Sì. Beh, ma a me piace. L'importante è che non si dice che si disgusta da se tu ti fai schifo. Beh, in realtà mi fa piacere il muschio e il fatto che la natura sta reclamando. Quello è vero. E purtroppo per voi, insomma, devo dire che la presenza di quel tirapiedi lurido Isaac ha leggermente tradito le vostre intenzioni, ma d'altronde gli ha detto sto solo qua per... d'altronde io lo sapevo già che quel verme del barone cerca. Guardi, siamo al servizio del barone. Signora Blitzkamp, mi ricordo parole. Aspetta, siamo arrivati qua, decidete di non nominare il barone. Lui l'ha nominato e lui si è trasformato nel capo delle guardie. È stato proprio trasformato nel barone. Non siamo qua per il servizio del barone, quanto più per il servizio della comunità di Vallà. Questa è una cosa che mi rassicura molto. Anzi, se le può interessare a me, il tizio di prima, Isaac, mi sta proprio antipatico. Anche a me. E spero che muoia il prima possibile. Tuttavia... Io spero che muoia qualcuno. Corre voce... La sintonia tra me e lei, non nota. Tuttavia sì, corre voce di una sua... di un'amicizia di lunga data, della sua casata, con quella del Conte Strad. Oh, il Conte. Questa... Guaglio. Mi fa venire in mente tempi migliori, quando ero ancora giovane. E sapevo sapevo ancora come divertirmi. E purtroppo vidi solo una volta tanti anni fa. La mia famiglia purtroppo. Ce l'hai la foto della tipa? Ancora. C'è ancora lì la foto della tipa? Sì. Una domanda stupidissima. Quando lei ci ha aperto è stata colpita dalla luce solare? No. Cioè, non è stata colpita, nel senso non gli ha dato fastidio. È uscita anche fuori. È uscita anche fuori. Sì, a fermare gli scherzi. Ah, è vero. Stupido, scusa. una strana scelta di parole. Ma non so se voi avete avuto il piacere di incontrarlo. In verità, un grand'uomo, sì. In verità, sì. Soprattutto per lui. Ti ha salvato la vita. Anche se non lo definirei un piacere. Beh, mi dispiace. Permetti di sentire. Ti ha salvato la vita, veramente. Allora non è tutto vero quelle cose brutte che si dicono sul suo conto. So che distribuisce caratteristiche. Lo vedi di ho dei ricordi soffusi di lui. Ero bambina quando ci fu un ballo al suo castello, al quale invitarono la mia famiglia. Questo 380 300. Diciamo che il conte è molto abile nel gettare fumo negli occhi delle persone, ma la sua vera natura è chiara a chi è puro di cuore. Esatto. Ma... sì, sono d'accordo, ma io sto penso cuore a lui è purissimo. Penso a lui piuttosto come a un signore negligente più che un tiranno. Di fatto ignora la nostra città e che ne dica il borgomastro non è certo per i suoi festival idioti e le sue leggi senza su senso. Su questo posso trovare però d'accordo. Questo non mi pare un comportamento conciliante e non mi pare molto contento. Io, ad ogni modo, ho provato per anni ad essere conciliante con quel... Non siamo qui... Non siamo ragionissima! Qui. Non siamo qui per parlare di politica. Quanto più per stanare una minaccia, signor Vardistran. Mi cerca in corso dello streaming video. Tutto è politica e niente è politica. Esattamente, signor Atanas. Come trova a casa in questo mondo? Satana. Lo può essere anche al contrario. Vedete, io per anni ho provato diplomaticamente a migliorare le cose e a cercare di alleviare la pena che questa povera popolazione deve subire per via di questo despota, questo pazzo, e ho provato pure a dare a mia figlia il sangue del mio sangue, in sposa, la viscida progenie. Quando ho detto sangue, cosa? Progenie, ha detto una. Di figlia di? Felice scelta di parole, una curiosa scelta. Perché non ha ucciso? Ha detto sangue del mio sangue. Non sangue sono quel tipo del di persona. Mio sangue. Io... scheletri in cantina, progeni. Io credo. Piacere. Dei quadri con dei membri della famiglia. Un po' volgare questa cosa, potrei dire. Te e i biscotti. Quando da giovane sapeva divertirsi. Una zoccola di Alto Borgo di vecchia età. Bordo. Signor Bardistrand, credo fermamente che le soluzioni estreme devono essere prese solo quando è strettamente necessario. E in realtà c'è solo una rimozione che basta effettuare per riuscire a ristabilire il senno. Avverrà domani. La testa da un collo. Avverrà. Lei sa che cosa è successo ieri notte? Oh, mio tirapiedi mi ha informato. Avete avuto un incontro molto sfortunato e mi dispiace per voi. Deve essere stato terribile. Non così tanto. Ah, beh, meglio così. Abbiamo ucciso, fatto morire 17 persone. E lei sa qualcosa di queste creature? Ho sentito appunto di queste progenie e che ovviamente questa cosa, notate bene, è stata subito sto per tirare, raga. È stata subito utilizzata. Anche se in sospetto. Questa cosa è stata immediatamente utilizzata, come potete notare, per gettare discredito su di me e sulla mia famiglia. Ma beh, diciamo che il vostro amico Izek non vi ha mandato qui per caso. Diciamo che l'avere degli scheletri in cantina. Carta intuizione 20 totale. Ci ha anche mandato alla locanda e dal signor lei Pizzi. Pensa che appunto il barone cerchi di incastrarla. Ma è sincera. Sì. E che sì, vi abbia mandato per appunto il trovare con un ma raga, non vedo l'ora di fare la scusa battimento con il vecchio di merda. Ci ha mandato anche con il signor Blizek, no, Blinsky e alla locanda. Sono altri luoghi pericolosi per la sua autorità? Forse? Diciamo che il locandiere è una persona molto invischiata in faccende. Ne lascia lunga quel Martinkov. E pare che lei abbia un certo qual savoir-faire con le con i non morti. Che una forse vecchia signora si deve poter arrangiare in qualche che modo. Che forse troveremo qualche altro creatura da queste parti. Che? Un metro. Oh, non lo so. Come non lo sai? Devo controllare. Cosa no. Vabbè, beh, il concetto era essere progenie. Dovete sapere che insomma, io mi diletto in arti magiche. Perché chiaramente. Disse fermando 8 scheletri che camminano. Le mie sole forze non bastano per difendere la mia famiglia se dovesse un giorno decidere, quel pazzo a decidere che faccio non siamo più persone gradite. Insight, okay. Anche se non è proprio il mio. Devi chiedere. 17 però. Attenzione, più la saggezza. No. 17. Saggezza. Meno la saggezza, 17. No. Più il modificatore, 17. Per capire se diciamo al netto della sua situazione del fatto che comunque è una persona ambiguo cambia il carattere potrebbe diciamo essere invischiata in questa questione del progenio oppure è proprio in realtà altri tipi di obiettivi. No, è tantissimi altri. Allora, il suo obiettivo è, ve l'ha detto chiaramente, qual è? Distruggere il barone. Esatto. Beh, non sono d'accordo, lei, che comunque però dalla però io voglio capire non, se si spingerebbe non, addirittura. Sì, non è che perché arriviamo a un posto del paese ci sta sul cazzo. No, perché infatti lei, il suo intento sarebbe riuscire a prendere il potere. Insomma, non di un cumulo di macerie. Che hanno? Scemo, non ti ricordi te? Ma in realtà io le ho fatto anche la domanda una perché gola, ha ucciso il barone e ha detto perché non vuole. Non li metterei mai in bocca. Te l'ho detto. Volevi fare non è un assassino. Una spada alla gola. Carne da macello. Allora vorrebbe risolvere la cosa. Potenzialmente potrebbe essere un'alleata allora. Sì. Se giocate bene le vostre carte. Allora direi di scoprire le carte. Parlerò con modo molto chiaro. L'altro giorno, l'altra notte, in chiesa abbiamo dovuto affrontare un gruppo di vampiri, di progenie vampiriche. Mi è stato riferito, sì. Ora queste progenie si trovano in città, non sappiamo dove. E vorreste sapere se vi posso consigliare dove andare a cercare. Magari anche aiutarci a stanarle, visto che ha dei poteri. Ora in cambio potremmo magari non bruciare la città. Eliminare in cambio, il in cambio Isaac. Potremmo forse pensare un modo eliminare Isaac. Di Stuprano. Diciamo salvare la città da questa follia dei festival eccetera. Sono molto contento di questa vostra contento proposta. Cosa ci nasconde? Strada scelta di parole. Per mostrare insomma la mia buona fede, io scoprirò anch'io le carte. Nel senso vi confesso che da molto tempo che insieme a dei fidati amici della città facciamo insomma abbiamo inaugurato questo club di lettura. Sì, club di lettura. Esatto, dove appunto cerchiamo di organizzare la resistenza e la di gettare le basi per la nuova la Vallachi che verrà. La Vallachi. Ma questo in realtà non ci porterà, non essendo abbastanza e non avendo possibilità di fronteggiare un mostro come Isaac, quello che è successo l'altra sera alla chiesa sarà molto più si è rivelato essere di molto più impatto, di un impatto molto maggiore, perché se sentite in giro quello che pensa la gente, quello che dice, il morale della popolazione è a pezzi. Ah, non li ho visti tutti sorridere. Aspetta che tornino senza lui. E io mi aspetto che in occasione del festival, dove quell'idiota del barone proverà, insomma, a farsi bello e a fare la sua sporca propaganda, qualche cosa succederà per cui la popolazione non lo reggerà più. Sì. E io spererei di non arrivare a quel punto, ma ormai è un sasso che sta rotolando al, per caso, sì, una casa. D'altra parte, questa notte potrebbe succedere molto di peggio che una rivolta popolare. Voi siete convinti che le progenie siano ancora in città? No, io non ne sarei così sicura. Per quale motivo? Perché ormai penso che il loro obiettivo l'abbiano raggiunto. Perché quello che vogliono è il caos e la distruzione di Vallacchi, e io questo lo voglio evitare. Ma ormai con il colpo che hanno inferto e al morale della popolazione, quindi da chi? Non lo so, se c'è una regia dietro questo. Voi avete scoperto qualcosa? Avete qualche nome? Beh, ci sono, insomma, vampiro fuori... ci porta ovviamente verso un'unica direzione. Oh certo, tutte chiaramente. Si arrivano subito. Poi esagerato. Al conte Strad. Lei lo nomina nome e cognome. Al contrario. Nome è conte. Nome il conte. E anche cognome nome. E Strad al contrario conte. Degli altri che invece lo chiamano il diavolo. Il diavolo. Perché lei dice insomma, chi difende la luce non deve aver paura delle tenebre. Assolutamente, anche in Harry Potter è così. Bene. Comunque, signora Fiona, mi sembra il caso, come giustamente detto lei, di scoprire tutte le carte. Quindi sarò sincero nel dirle che la scimmia si chiama derubando... la scimmia di nome Strad, che sta derubando la casa, restituirà tutto quanto. Una volta apprezzo molto i suoi una volta che avrò speso per appunto siglare questo nostro patto ho una cosa per voi che vi darò la prossima volta. Sì, l'unica cosa prima di lasciarci è questa, ovviamente l'accordo che noi stiamo prendendo. Quale cosa? Mette al sicuro la chiesa e tutti i fedeli, non solo, anche tutta la popolazione intera della città, nel senso che da quello che sappiamo più con club di lettura qua si svolgono oscuri rituali. Di che tipo? Non ne sono al corrente di questo. Posso usare gli segni? Cosa intende il caro Valdistan per oscuri rituali? C'è giunta voce di qualche rituale molto scuro. Ora sappiamo che lei utilizza la magia, tuttavia non vorrei che questo si ripetesse. Vi prego, si spieghi meglio. Per caso potrei spiegarmi meglio di così. Mentre buttava via gli zombie, noi il Pietro ha detto che non usa la magia. La famiglia del commerciante che fa parte del vostro club del libro. Sì, sono dei affiliati, dei lettori appassionati. Sì, lettori appassionati. Gli ho insegnato qualche formuletta, ma chiaramente è solo una cosa che faccio per fargli credere di essere speciali. Non hanno nessun potere. E quindi i rituali che insegna, cioè, se vuole le posso insegnare anche a lei. No, io solo uccido quelli che li fanno. Cosa vi vuole chiedere? Cosa servono? No, sono delle invocazioni, delle preghiere. Quanti qua due piedi, Giulio? Servono a rinsaldare il morale. 8 anni, quasi 29. E rendere, insomma, gli animi volenterosi nel compiere a volte azioni, insomma, coraggiose. ma di poco, che si vede per, che nel per la libertà, questo è altro. No, sarà, cioè, a me ricordano, hanno ricordato quando li ho sentite altri tipi di situazioni. Ah, tipo? Ah, le vocazioni. Che cazzo stanno facendo? Caduto in le cose che non dovrebbero stare in questo mondo. Tutto a posto? Capisco che cosa intende. È uno studio per no, come ho detto prima, io uccido le cose che non dovrebbero stare in questo mondo. Guarda quello che illumina. Possiamo dire che sono uno studioso in un certo senso. Vedi sperimentare. È una, un impiego molto, la forchetta. Molto pericoloso. C'è la forchetta di casa. Ha tutta la mia ammirazione. Non sporco lavoro. Ma non lo devo fare. Visto Vez, grazie al mio dado caduto, tu hai trovato delle porcherie. Tutto quello che si annida sotto il tuo divano. Vabbè. Non spostare. Non rovinare gli equilibri della casa. Loro fa schifo se stessi. Sono morti. Si autodisgusta come la casa. Sono morti, lo custodiscono. Non spostare il divano. Quanto ti aveva rubato per curiosità, Strabi? Te lo dico la prossima volta. Dai, io lo restituisco comunque, per sapere. Sì, sì. Con la lampada e la scimmia. Vabbè, quindi... E voi ve ne andate? Dalla casa. No, in realtà... stiamo parlando. Ha appena detto una cosa per voi e adesso... Cos'è che ci ha detto, scusami? Che è una cosa, per voi, esatto. Però sì. E tu hai detto che ce la dai la prossima questa volta. Sì. E poi andare dietro a un posto e si è cominciato a spogliare. Vabbè, prima che dici questa cosa, forse dovremmo aspettare. Ah no, tu sei andato. No, io non torno. Non cioè, sto fuori. Che cazzo faccio? Stavate parlando di me? Vabbè, dai, prossima volta. Vabbè, ha detto quando incontri Reis, sì, mandacelo. Vabbè, vi aspetto fuori. Si vede che Isaac non ha capito. Sì, non ha capito. Ma chi è Reis? Va bene. Vabbè, povero Isaac, ha tante cose a cui pensare, vero? Allora, quindi lei cosa ha da dire sulle forme? No, allora, dice, insomma, io conosco qualche modo per risvegliare gli cadaveri, gli scheletri che uso per la mia sicurezza personale. Però risvegliare i morti siamo un po' borderline, eh. Ma direi che più dopo la linea. Siamo un po'. Vai, finisci l'acqua, Giulio. Lei ha perfettamente ragione, ma tempi estremi richiedono misure estreme. Anche perché chi muore è fortunato e non va disturbato. Aspetta. Oh, ma... meglio di me, essendo un grande studioso di queste cose, che ormai l'anima non è più lì, indica, ma è andata altrove. Assolutamente. Cioè, certo. Va bene. E dico qualcosa in celestiale. Vabbè, sono usato tutte le tracce. E abbiamo visto la... Ti viene a chiudere! La nona puntata. Sì, dico tipo fortunati morti celestiali. Bene, sono quasi morto anche questa puntata, geniale. Ma dai, non ti hanno sfiorato. Il nuovo episodio della maledizione di Kat. Ora mi capisci. Geniale. Capisci cosa? Che tu muori e lui non l'hanno sfiorato. Beh, scusa, ti ha fatto dei danni? No. No. Non l'hanno sfiorato. Perché sono particolarmente figo, però. Ehi. Che cazzo sei? Va bene, vi diamo appuntamento ai prossimi episodi con Titans and Dragons. Con la morte di Isaac. Sì, può essere. Speriamo. Sarebbe bello. Ma quale Isaac? L'unico vero Isaac. Ciao a tutti. L'unico che c'è. Ciao. Anche Aikilag. Grande. Ho fatto vedere una parte di Boris Arci, ma non lo riguarderà mai più perché è un cane. Non hai mai visto Boris? È tipo la serie più bella. Adesso sto guardando. Come si chiama? 99. Brooklyn Nine. Beh.